Ci tengo i ragazzi per un viaggio senza eguali, con del ruolo di cave in quattro andiamo nei campionati. Dall'Italia all'Europa in un balzo e senza rete, con la palla che le mala testa tra le stelle. Eurolunica è la radio che fa gol con la musica. Eurolunica è il calcio giocato e chiave ludica. Tra un dribbling e un fallo noi parliamo d'altro ancora, dai piatti tipici ai ritmi che l'anima mora. E se il calcio è poesia, noi siamo i suoi poeti. Con Rete Radio i campioni siete voi. Eurolunica, Eurolunica è la radio che fa gol con la musica. Eurolunica, Eurolunica è il calcio giocato in chiave ludica. E quando il fischio suona il gioco si fa duro, noi cambiamo gioco con un uno stile duro. Dalle donne alle leggende, premiti alle verità. Eurolunica, 24 ore a partita è già qua. Eurolunica, Eurolunica è la radio che fa gol con la musica. Eurolunica, Eurolunica è il calcio giocato in chiave ludica. Belli di casa, bentornati qua su Euroludica 2024 su runtimeradio.it, il vostro programma con il quale seguirete la partita dell'Italia abbassando il volume e sentendo persone che dicono cose più o meno interessanti su quello che c'è da dire in merito alla partita o cose intorno alla partita, ma in realtà non lo sappiamo. Con me, ovviamente, per cavalleria, diciamo, insomma, per spirito di cavalleria, c'è Marco Gualdi. Ciao, ciao a tutti. Che bello essere cavalieri! Cavalieri di Malta anche. Di Malta. Ho appena fatto la Malta. La Malta. Walter Smano! Quando hai parlato di cavalleria, sì, io mi aspettavo la dama. La dama? E invece Gualdi. La dama dei 5 litri. La damigiana. Quella di Dimitri. Dimitri. Che fatti 5 litri. No, ho Catiuscia, mi scappa la biscia. Sì, Dimitri ha fatto 5 litri, giustamente. Bene, bene, inizia benissimo questa puntata dove parleremo ovviamente di quella che è la partita dell'Italia che si scontrerà tra pochissimo, ovviamente. No, no, che se, perché? Si scontra, cioè, si scontra. Perché sono scontrati? Si scontra, sì. Scontrano. Ma si vidassero, cioè, secondo me c'erano tutto il tempo per fare manovra. Canta l'inno, Marco. Questo è l'inno d'Italia, no. Il più bello d'Italia. Ma ancora pensate, non è iniziato, aspetta, non è iniziato. Io lo canto subito. Ta, ta, ta, ta, ta. E pensa, no, che ancora noi cantiamo tutti quanti in coro, tutti quanti. Cioè tu canti la parte non cantata. Adesso inizia la parte cantata. E poi la canta adesso. E quindi io mi ricordavo diverso. Quindi, non lo so perché. La parte cantata. Io sai che ho scoperto una cosa importante. Comunque vi ripendio all'inno nazionale. Io ho scoperto una cosa importante. Sì? Che non vedo la partita. Comunque scusate. Ah no, mo gira. Questo cazzo lui dopo. Allora, quest'inno che inizia con il nome di un partito non va bene, va cambiato. No, è con il nome. Una parte del nome di un partito. No, tutto. No, tutto. Fratelli d'Italia. Ah, Fratelli d'Italia, hai ragione. Sì. No, va cambiato. Ma guarda, il problema è che ma se lo faranno. Quelli che possono cambiarlo oggi, se lo cambiano, sicuramente sarà una cosa assolutamente peggiore. Chiameranno ma... Fratelli Neri, una cosa del genere, ma non perché. Non per classico. Scusa, porta rispetto all'inno della Spagna. Per la questione Fratelli di... Neri, ma non per l'Africani, per un altro senso. E sarà così, Pizzi, ti piacerà. Ok, quindi l'inno della Spagna per ricordarci che giocheremo contro le Furie Rosse. Ma lo sai che se tu non mi avessi detto che era l'inno della Spagna avrei pensato che era l'inno italiano. C'era il proseguimento dell'inno. Perché come i cartoni animati che si interrompevano a un certo, non sai mai come finivano, invece pensavo che fosse questo il finale dell'inno italiano. Bene, Walter, sai la formazione della Spagna? Aspetta, io sto cercando di condividere la visione della partita in una modalità che possa essere ragionevole. Quindi sul nostro schermo, no, a 55 polli, no, eccolo qui. Polli, aspetta, non mi interpellate perché stiamo facendo una cosa tecnica. Cose tecniche. Marco, la formazione della Spagna. Allora, Cuarón, Bertegà, Fantasias, Mortesos, Palmiolas, Las Palmas, Murnau, c'è anche Murnau che è di origine tedesca e faceva regista il nonno. Pippo Marcelinho Panevigno non c'è? È panchina. Ah. Allena l'allenatore Marusio, vabbè, dai, perché basta, c'ha rotto un po' il cazzo la Spagna. Con tutto il rispetto, però insomma, diciamo che proprio in questo momento le squadre sono schierate per l'ascolto dell'inno nazionale. Finalmente, rispetto all'occasione precedente, lo stadio è equilibrato nella composizione, cioè 50% sono italiani e 50% sono spagnoli. La differenza è quello che è successo con l'Albania, che invece il 50% sono donne e 50% sono uomini, perché deve esserci proprio tutto quanto. Ma a proposito di Albania, avete visto che il casino, si è incazzata la Serbia? No, che è successo? Perché praticamente pare che sia i tifosi dell'Albania che quelli della Croazia abbiano inneggiato tipo morte ai serbi, qualcosa del genere. Ah, strano, no? Hanno deciso, i serbi hanno detto no, se la UEFA non prende provvedimenti noi ci ritiriamo dall'Europeo. Poi non so se li hanno riportati a più miti consigli. Diciamo che secondo me si ritirano dall'Europeo perché c'è una squadra di pippe, però... Mi ricorda qualcuno? Allora, diciamo che qui c'è la Georgia e l'Ucraina, poi c'è la Serbia, la Croazia e l'Albania. Insomma, diciamo che... Però ci sono arrivati. Però diciamo che questo campionato europeo è... Guarda Spalletti come sta la canta. Ci crede Spalletti? Vabbè, comunque. Quindi la formazione dell'Italia, Marco? Buffon, poi c'è... No, Buffon non è più... C'è portiere. Nela, poi c'è Cabrini. Sebino Nela, Cabrini, Pruzzo. In difesa. Voleva provare una cosa nuova. Poi al centrocampo c'è Bjerkovud, insomma, c'è azzeccato, che ci serve. Cioè, noi quindi giochiamo solo con tre difensori. Beh, considerando che Bjerkovud ha smesso di giocare a 50 anni, poteva ancora essere, cioè. Ma secondo me infatti è lui proprio. Poi io conto che entra a un certo punto. Tanto salutiamo il fortissimo Giannini, pubblico che ci ascolta, cioè Mister Zero e Michela. Vi ricordo che più tardi potrebbe esserci un collegamento con Mercedes, proprio per capire se... Ma chi è questo? Cioè... Oh mamma mia, bei capelli, complimenti. Il famoso belli capelli. Quello è belli capelli. Meglio scappare. Secondo me hanno preso proprio tipo una borgata di Roma, stava a girare Gigio Zozzone. Comunque, detto questo. Ma se stava tipo a girare un cannone sotto Ponte Sisto, sì, una cosa del genere. Mamma mia, come gli sì, sto. Ma tipo sì, a Forte Preneste, perché non mi sembrava esattamente. Esatto. Dobbiamo fare una cosa importante che abbiamo fatto l'altra volta, cioè chiedere il pronostico a Gemini. Ah, Gemini, hai ragione. Allora, tu intanto, Walter, dimmelo tu il pronostico tuo, così io lo chiedo a Gemini. Tu vuoi sapere da me come finirà questa partita? Secondo me. Secondo te, naturalmente. Ma io credo che ci sia un rischio tipo di 3-1 per la Spagna. Io allora premesso, perché poi alla prima diretta non ci sono stato. E questa cosa l'ho detta ante litteram, quindi vale anche se poi i fatti mi hanno smentito. Io per tutte le partite troverei molto più dignitoso che ci presentassimo, che non ci presentassimo in campo e perdessimo 2-0 a tavolino. Così? Sì, perché secondo me in campo facciamo anche peggio. Poi, vabbè, i fatti mi hanno volevano darmi ragione, perché il primo gol l'abbiamo preso dopo 30 secondi. Però poi effettivamente ma quello è solo per un problema di scommesse. Sì, esatto. Qualcuno ci ha scommesso sopra? Non lo so. C'è sempre chi è il capodelegazione dell'Italia all'Europeo? Non lo so, non Buffon, so quindi vedi che tutto torna. È lui. Tutto torna. Invece il mio pronostico, la partita finirà con tre fischi. Già. Sì, potrebbe dare. Primo tempo con due. Con due, esatto. La partita Italia-Spagna si preannuncia come un match equilibrato e combattuto tra due squadre di alto livello con ambizioni di vittoria nel torneo. Analisi delle squadre. Italia. gli azzurri hanno mostrato una buona solidità difensiva e un attacco efficace. Infatti nella preso gol. Esatto. La squadra sembra aver assimilato bene le idee di Spalletti e può contare su giocatori di talento come Immobile, Barella e Donnarumma. Non c'è Immobile. La Roja ha dimostrato un gioco offensivo fluido e creativo, però ci può con contare una rosa Immobile ricca di giovani talenti come Pedri, Gavi e Yamal. Vabbè, tuttavia, non dire, la difesa potrebbe essere il punto debole della squadra. Sempre. Fattori chiave. Approccio tattico. Vabbè, basta, sarà interessante vedere come Spalletti imposterà la partita contro la Spagna. Io non so Spalletti come imposterà la partita contro la Spagna. Ho visto come ha impostato la faccia appena si è seduto in panchina e rinnovo l'invito al 2-0 a tavolino. Allora, ritorniamo alle probabilità come l'altra volta. Te lo riassumo io. Pareggio, probabilità alta. Attenzione, attenzione. Vittoria dell'Italia, probabilità media. Vittoria della Spagna, probabilità media. Diciamo che è tutto medio. Se la gioca sul pareggio, probabilità alta il pareggio. Ah, ok. Quindi se la gioca sul pareggio, Gemini. Diciamo le cose con il nome che c'hanno, insomma. Intanto controlliamo su Google Meet se è arrivato qualcuno. No, io ho come l'impressione che questa sia una delle risposte più democristiane che abbiamo sentito negli ultimi giorni. Ma chi è questo Gerard Diner che stanno... Secondo me è uno che è morto, cioè ho questa impressione. Esatto. Morto di Covid, poverino. Quando leggeremo Shatner? No, è morto de vaccino. Il Covid è un banale raffreddore, Marco, non può uccidere. È il vaccino che lo morto del vaccino, anche se la sua morte ufficialmente non può essere riconducibile al vaccino. Comunque anche il nostro Mr. Zero, che saluto anch'io, ha detto che questa IA è troppo democristiana. Esatto. È perché cioè mediamente medio vince uno, medio vince l'altro, però potrebbe essere che pareggio. Cioè, perché proprio... perché fanno i capannelli, Gualdi? Se si mettono lì fanno i capannelli. Perché si sputano sui piedi. A vicenda, cioè, è un portafortuna. È un portafortuna. Ho capito. Sì. Beh, però tutto sommato è un po' come dire che dicono merda in teatro. Loro sputano sui piedi. Esatto, un'interpretazione creativa. Sentiamo Walter se invece ha una sua visione del capannello. Ma il capannello è sempre meglio un capannone, perché ci fai, è più versatile del capannello. Esatto. Quindi diciamo, ecco, immobiliaristicamente. Però scusate, attenzione, perché si sono schierati, stanno per iniziare, quindi poi magari te lo dico dopo. Vabbè. Ah, l'Italia è in bianco, è andata in bianco l'Italia. Strano, perché mica fa contrasto il blu col rosso della Spagna, però vabbè, seconda maglia, vabbè. Ma sì, dai, per far vedere maglie, che certo, pure la seconda. Lo sponsor paga. Ma c'hiamo la terza maglia? Come? Ci abbiamo tutto noi. Cioè, c'è pure la maglia dell'Ana, secondo me. Tra l'altro, avete notato che la nuova uniforme difesa maglietta dell'Italia c'ha questi richiami alla bandiera che di solito in passato non ci sono mai stati. No, ci stavano. No. Cioè, c'erano le righine sul colletto un po' di tempo fa, sì. Ma cioè, qui è proprio molto più evidente, insomma, sulle spalle questa cosa del verde e rosso. C'è il tricoglione, è il tricolo colore. Esatto. Chi è l'allenatore della Spagna? Era Fuente. La Fuente. Nascimento, no, quello è portoghese. Nascimento è portoghese. Hai ragione. Nascimento è portoghese. Il maestro de vita, Domassimiento. È portoghese. Portoghesi, e vabbè, insomma, la partita. Vabbè, non ce ne frega un cazzo. Da partita, stanno a Fartorello. Esatto, che vedevo dire. La partita, guardi. Allora, cominciamo. Perché in realtà, noi abbiamo fatto già tante edizioni di questo programma e quasi sempre abbiamo giocato contro la Spagna. Quindi, in realtà, noi della Spagna ne abbiamo parlato. Attenzione che potrebbero segnare adesso, però il record è già superato. No, noi siamo già a un minuto e 17. Sì. Esatto. Però c'è qualcuno che ha scommesso attorno ai due minuti. Quindi. Ecco, eccolo! Qui sono soldi che qualcuno ha buttato. Attenzione. Noi dobbiamo stare attenti a quando bestemmia Buffon. Perché a Buffon in panchina, dice? Perché quando bestemmia Buffon è lì che gli ha perso la scommessa. E dice, ma guarda che abbiamo preso. No, dice. Go! Ma ci guarda che abbiamo preso gol noi. Fa niente. Vabbè. Comunque la basta con questi luoghi comuni su Buffon che gioca al picchetto, insomma. Sento calcio d'angolo per la Spagna. Nel frattempo, Marco, cosa abbiamo da dire sulla Spagna? Beh, sulla Spagna allora, abbiamo da dire tante cose. Innanzitutto è patria di film spagnoli bellissimi, no? Che tu conosci perfettamente. Esatto, anche di musica spagnola. La famosa musica spagnola. E cucina spagnola. Il flamenco. La paella, insomma, cioè, raga, tanta roba. E poi c'è la corrida. Sì, che è diventata illegale. No, purtroppo no. Però l'altro giorno un torero, non so se è morto, ma ci è mancato poco. Magari credo sia morto, ne sarei contento. Vabbè, tanti ne sono morti, diciamo. Lo scopo è quello. Comunque, Michela ci ha mentito l'altra volta. C'è illuso che avessero tolto la corrida, invece no. No, non solo. Lei ha anche, da pure un contesto, lei ha detto che il governo spagnolo ha reso la corrida illegale e per questo hanno perso le elezioni. Quindi c'era pure, capito? Ma l'ha chiesto a ChatGPT? No, ma lei credo che sia una circoscrizione. Si informa su Instagram. Ci sono 99 circoscrizioni che hanno abolito la corrida, però le altre no. 99 su? Su tipo un milione. Su 100. No, sono attenzione tanti. Perché quando la palla sta nella nostra area. Comunque diciamo, sono anche un po' contento che non l'abbiano eliminata la corrida, perché cioè, parliamoci chiaro, no? Ti togliamo la corrida alla Spagna, che rimane? Cioè, questi che facciamo? Vabbè, ci avranno qualcos'altro. C'è nel Flamenco la paella, visto? C'è il Real Madrid, c'è il Barcellona. Mentre balla sulla paella mentre mangiano, che fa? Cioè, la Sagrada Famiglia. Questo è qualunquismo che non posso accettare. La Sagrada Famiglia, che essendo a Barcellona, è catalana. Eviterei di dire che è spagnola. È catalana. Però penso che l'hanno fatto con i soldi del governo spagnolo, no? Con quello della Catalogna. Penso, non ho idea. Ma magari anche coi soldi dell'amministrazione locale. Poi l'hanno fatta, è una parola grossa, perché so 200 anni fa. Ancora stanno a fa. Quindi. È quella la più grande incompiuta della storia. Sì, potrebbe averlo fatto un ministro italiano, potrebbe essere Salvini dietro. Dunque, la Spagna spigne e l'Italia regge. Sì, guarda, noi non abbiamo passato la loro metà campo ancora. Per ora, ma è tutta una tattica. Oh, devo dire una cosa, quanto cazzo è brutta la seconda maglia? Ma no, è il tatuaggio, sì, il tatuaggio peggiora ulteriormente. No, è uguale alla prima maglia, solo che è bianca. Lo so, ma questi inserti verdi e rossi quelli sul che ti dicevo sono prima, più brutti che sul blu. Sì, si vedono di più. A me alla fine non è che mi dà fastidio quello, è proprio che sai che quando avevano provato a mettere la maglia verde, a me tutto sommato non mi dispiaceva la maglia verde. Qual era quella, camo? O proprio per... No, la terza maglia verde, mamma mia. Che avevano provato a mettere, che tra l'altro sono andato a ricostruire e pare che negli anni 50-60 l'Italia già ci ha giocato una maglia verde. Però sai come ti fregavano? C'era il televisore in bianco e nero. Tengulavano per quello, esatto. Non lo sapevi. Va bene, insomma. Poi lo sai, sappiamo, no, che quando si tratta di colore verde tu non sei obiettivo, perciò... No, io no. No, per me se... Io se dovessi fare una squadra di calcio la farei verde. Mamma mia. Anche l'Italia, pure la Lazio la farei verde. La verdesca la vorresti chiamare. Tant'è che c'era un paio d'anni fa che ci fu una notizia che creò una polemica, che praticamente pareva che la prima maglia della Lazio, che sarebbe stata presentata la prima maglia della Lazio, verde. Ma in realtà non era verde, cioè era un'allusione marketing, cioè nel senso che la maglia era celeste, però era verde perché era una maglia fatta con materiale ecologico. Ah, ecologico. Okay. Però, se no era l'Avellino. Però sta cosa aveva scatenato il panico. Sì, me la ricordo. Però ti ripeto, a sto punto Lotito si compra anche l'Avellino, vista che c'era già la Salernitana. Esatto. Ma poi dopo gliele levano le squadre. Quindi... Vabbè, capito. Tecnicamente avere due squadre nello stesso campionato non è potrebbe, bellissimo. Non si potrebbe fare, hai ragione. Però diciamo che la deroga che gli hanno dato a De Laurentiis non è la deroga che gli hanno dato al poro Lotito, che poverino scusa, quando il Bari in ancia è mai salito con De Laurentiis, ma se ci saliva? Finché non succede il problema non si pone. Capito? Comunque fatto sta che a Salernitana tutti incazzati, via Lotito e se ne sono oddio raga, che brutto che Spalletti c'ha sto completo elegante con dietro la scritta Italia fatta con lo scotch praticamente. È oscena. Io non so, sai, mi è venuto da pensare perché chi si è rotto? Aia. Il nostro numero 18 che ha messo il piede male da solo si è fatto male. Non si capisce se è l'azione dopo, nel senso il passo dopo, perché è difficile capire il passo doppio. Se inquadri solo le caviglie non capiamo chi è. I tatuaggi in quel caso è da quello che si riconosce, perché ricordiamo sempre che per una regola della UEFA, fa l'occhiolino questo, madonna, con sta scodella che manca. La regola della UEFA purtroppo non si può più fare il giocatore professionista se non si ha dei tatuaggi. Capisco. Distintivi, capito? Ok. Quindi che stavamo dicendo però prima di questa cosa del passo doble? No, beh, intanto vediamo che ci abbiamo uomo a terra tra virgolette, il nostro numero 10 in questo momento. Scusa, ma ecco che stavamo parlando della giacca di la giacca bruttissima, che l'avevo notato pure l'altra volta, che la giacca di per sé, a parte che ha messo grigio dopo, però ce l'avevamo anche all'altro europeo. Ma sicuro che non sia un blu? A me sembra un grigio dopo. Ma comunque mi sembra sentiamo in chat, ragazzi. Superiore. Amici in chat, di che colore? Di che colore è la giacca? Insomma, però secondo me questa cosa che c'è il nome appiccicato dietro è una regola, evidentemente, perché dai, a noi non ci sarebbe mai venuto in mente di fare una cosa del genere. Dici? Sì, dai. Intanto per estendere, il Mister Zero diceva che tutti i kit, quindi tutte le divise di tutte le nazionali quest'anno fanno schifo. Io non ho ancora visto mezza partita, quindi non lo so, mi fido, insomma. E invece Michela dice che non la meritiamo. Cosa? Lei, non ci meritiamo Michela. Ah, okay. Così, a sbafo. No, vabbè, perché ovviamente ci sta ascoltando, diciamo, la cosa della Spagna, della corrida, che non ha capito. Ah, del fatto che ci hanno perso pure le elezioni. una fake news. Scusa, tu ci dici le fake news. Vabbè, ma questi, a te. No, questi stanno a piaccarci, cioè, no, io vai, sai che vado subito. Comunque, Gualdi, anche questa volta rinnoviamo la tradizione con cui abbiamo aperto, ovviamente, l'Europeo l'altra volta. E sarebbe quella di presentarci un artista. Ah, l'artista, giusto? Sì, ma in questo momento mi sfugge il nome dell'artista. Non lo so, se non lo sai te. Tocchigno. No, non era esattamente spagnolo. Vabbè, andiamo a scartabellare un secondo. Vabbè, se vuoi, allora lo rimandiamo l'artismo. Sì, sì, sì. L'artismo lo rimandiamo. Ancora presto, dai. E continuiamo. No, beh, presto, l'abbiamo lanciata subito l'altra volta. No, ma che presto? Noi abbiamo deciso che alle 9:30. Finisce la partita, se ne andiamo. Esatto. Ah, ma le birre soprattutto, le birre che fine hanno fatto? Mercedes non ci ha portato le birre. Neanche questa è riuscita a fare. Comunque, quello che sembra quello che mi vendeva il fumo quando avevo 16 anni, il frattone, si chiama tipo Cucureddu. Sai che sbano che siamo praticamente quasi in sync? È incredibile, vero? Veramente, almeno noi siamo insieme tra di noi, poi sì. Noi stiamo guardando lo streaming, quindi attenzione, voi che la guardate attenzione. In TV, ecco, saprete. Eccolo ma dov'hai? Di là devi andare. Attenzione, boom! Ogni tanto diventa rugby, io ve lo dico. Vabbè, ma d'altronde. No, poi hai visto allargate le braccia, che cazzo vuoi? Io ero placcato, stavo là. Esatto. Che te posso rocchiamo? Scusa. Esatto. Vabbè, comunque. Scamacca, ma. Vabbè, perché no? Giustamente lui ci ha pure provato, però. Vabbè. E comunque, niente, insomma, sai cosa è un po' agghiacciante? Praticamente non conosce i giocatori della nazionale. Vuol dire che sei proprio fuori dal mondo. Sì, ma perché ormai, a parte ovviamente c'è una radice interista, attenzione, come ovvio che sia, ma gli altri, ma chi li conosce? Cioè, vabbè. Comunque, io se fossi stato Spalletti avrei fatto un accordo con la Spagna. Quello non mi sembra un vero spagnolo. No, ha detto qualcosa che era tipo 5.8. Può essere, sì. Vero? Mamma mia, ha sverniciato la parte. Vabbè, non esagerato. Sì, sì, sì. Talmente vicino ci è arrivato che proprio si è portata via la vernice. Non è spagnolo? Vabbè, che vuol dire? Allora, mezza nazionale francese. Non è no, francese. Ma no, non era no, per il colore della pelle, era per il labiale. Simone, ho detto, gli è partito un 5.8. Ah, tu dici no, secondo me no, non era. Sembrava. Sembrava, parla spagnolo. Attenzione, questo taglio di campo fantastico. E il bello è che questo passa a quell'altro. Oppure mi ricordo quando mia madre guardavamo le partite dell'Italia dell'82. Tira, tira! Sta a centrocampo, che tira? Tira, tira! Doveva sempre tirare. No, comunque, raga, cioè, non ne fermiamo mezzo, Cioè, questi stanno a fare quello che gli pare. La potenza, lo strapotere fisico. Ma secondo me la tecnica è famoli stancare, perché sai, funziona sempre. Ma sì, ma pure noi tanto vediamo. Anche stiamo, perché a noi non è che ci va tanto. Intanto proprio stancare pure loro. Io farei notare la difesa dell'Italia che è una linea 6. Quello ci abbiamo. La linea 6, dai. Abbiamo un 666. Un 6-2-2. È proprio una linea Maginot, capito? Cioè, non è... No, è una linea Imaginò. Che qualcuno lo immaginò, non sappiamo chi, però qualcuno l'ha fatto, insomma. E comunque niente. Boom! Ma sì. Però questo si chiama pressing. Non la finimmo in 11 sta partita, io avevo detto. Vedi, l'arbitro ha detto, mo te lo dico, eh. Ma perché c'ha una faccia sul collo questo? Cioè. Caro mio. Ma chi è? Chi è? Spartan. Raspadori. È uno dei più... De più creativi quei due quadri. Esatto. Sì, no, Raspadori in se regola, raga. Ma Raspadori non è quello che fa i polli. Quello è Amadori. Amadori, giusto, hai ragione. Vabbè, questo e poi c'è Raspini dei Salumi, che probabilmente se si fondono diventano Raspadori. Che poi, insomma, ci stanno ancora a fargli vedere il colpo di testa di prima del dello spagnolo che diceva 15-18. 5.8, è facile, Simo. Sì, l'ho capito. Ah, no, ok, no, nel senso perché... Vabbè, quindi l'hai ritrovato sto artista spagnolo? Sì, allora, praticamente questo è il cantante che fa questa musica spagnola, un po' ska, un po' funky. Quindi, cioè, la famosa musica, musica scagnola. Scagnola, esatto. Cioè, un po' contaminato, dici. Scafanca. Scafanca. Lo Scafanca. Lui si chiama Jorge Madogno ed è un... è un cantante Casarini, è un cantante spagnolo. 5.8 anche lui, eh. Cioè, non capisco. E questa è la parte che andiamo a presentare, la sua opera prima, che attenzione, no, niente. Paella Matadora. Nuestra paella diaria, celebramos el sol, el mar, la siesta, vivimos al máximo, bebemos a villa, y si sale mal, rompemos botella, matamos familia, como un flamenco inflamado, saltamos de siesta en siesta, con sombreros y tacos, aunque sean mexicanos es lo mismo. Jugamos al fútbol, reímos y bromeamos, pero toca mi equipo, y riéndote masacramos. Immaginare che le tematiche siano simili alla canzone dell'altra settimana. Ma secondo me è un movimento internazionale. Sì, anche qui si parla molto della Spagna, della paella, delle cose belle della Spagna. Certo. No, ma rompemos botias, matamos familias. Secondo me è quello che ha detto Donnarumma all'arbitro dopo il fallo su Di Lorenzo. Esatto, perché facendosi ammonire. Esatto. Esatto. Una cosa del genere. No, io volevo dire, Mister Zero primo ci manda il suo commento da bordo campo. Dice: Spagna furia rossa, attacca e domina il possesso di palla. Quando attacca da sempre la sensazione di fare male, sfortunata sotto la porta, e qualche miracolo di Gigio ha impedito già l'1-0 per loro. Italia impacciata ancora sotto al tunnel, per adesso imbarazzanti. Siamo dentro al tunnel, non sotto. Beh, esatto, siamo il tunnel. Siamo fuori, noi siamo dal tunnel. Noi siamo il tunnel, esatto. D'altra parte, ricordiamoci che sta giocando il nostro spacciatore da quando avevamo 18 anni, perciò... esatto, nella Spagna però. Sì, sì, vabbè, ho capito. Ed è più forte. È dovuto scappare dall'Italia. No, certo, sono 15 anni che vende il fumo in Italia, gli effetti si vedono. Esatto, insomma, cioè, non è scemo, è venuto intossicato. Se non altro dobbiamo riconoscere anche il fatto che, cioè, la partita è una partita maschia, maschia. Maschia come il panino da Pippo che quando te lo bello. Mangi intero. È proprio anni 80, anni 90. Sì, che poi secondo me Italia e Spagna dal punto di vista calcistico si rispettano molto, anche se i spagnoli sanno di essere più forti, e però se smazzulano. È sempre stata così, cioè, devo dire, da quello che ricordo io è sempre stato così, insomma. Ecco, per esempio, Pizzi, apriamo un dibattito tecnico sullo stile di commento moderno, no? Perché tu dici fa molto questi termini maschia, no? Maschia. Questi molti termini molto anni 80, anni 90. Ma facciamo un salto nel presente, no? Nel per presente. Esempio, perché tanti ho fatto caso di tanti commentatori, anche nazionali, anche sulla Rai, hanno preso sto viziaccio, credo che abbia iniziato Caressa, ma non vorrei sbagliare, quando si parla dei calciatori di sinistro col mancino. Col mancino, sì, perché non si può di sinistro. Perché, cioè, col sinistro è italiano corretto, col mancino perché? Allora, questa secondo me, allora, tu dici una cosa moderna, ma in realtà penso che ci sia sempre stata, perché mi ricordo già dai tempi di scuola questa cosa del sinistro, che proprio come parola viene ricondotta al diavolo, è proprio un problema antropologico italiano questo, capito? Quindi se... Sì. Secondo me dicono il mancino per non dire il comunista. Può essere, anch'io. Quello è di sinistra, no, no, è però, il mancino. Però no, mancino. No, c'è una tradizione più religiosa, la risposta è più religiosa. Non lo so, però applicandolo alle telecronache, io prima di qualche anno fa il mancino così usato al limite poteva essere sporadicamente, ma qui in una partita di 90 minuti, mediamente, quando uno sinistro di piede tocca palla, dicono il mancino. Con il mancino, con il mancino, col sinistro, cazzo! Guarda, ti devo dire la verità, tu noti questa cosa, però è vero pure che io ho visto partite praticamente da sempre, prima non si diceva proprio. Cioè non si faceva mai la distinzione tra destra e sinistra, si diceva solo che tirava. Questa cosa del distinguere il piede destro e il piede sinistro è una cosa molto più moderna. Vabbè, ma c'era anche meno competenza e cognizione tecnica. Ma soprattutto c'era anche meno definizione. Sì, esatto. Video, insomma, da quando è arrivata Telepiù, diciamo, cioè, molti termini sono cambiati e il giornalismo è moderno. Si usa anche col sinistro, però questa cosa del mancino, ricordate sempre che ancora negli anni 70 i ragazzini che scrivevano con la sinistra venivano bacchettati dalle maestre. Sì, sì, alcune maestre provavano a correggerli. Sì, ma è proprio una questione proprio storico-religiosa più che una questione politica. Ah, beh, sì, sì, no, in quello nel tentare di correggere il mancino a scuola di politico non c'era niente. Esatto, no? Soprattutto poi quando cominciavano a scrivere con la mano sinistra in aramaico. Esatto. Lì erano proprio, chiamavano proprio l'esorcista. Però la cosa brutta, secondo me, è che nel momento in cui... Attenzione, c'è questo qui che è chiaramente non spagnolo, bisogna dirlo, perché è l'unico che sa giocare. No, cioè, gli spagnoli sono forti. Cosa, no, c'è questa cosa del sì, però dei nazionalizzati, cosa, no. Vai. Dei naturalizzati, come tutto si dice. È uguale. Comunque, secondo me, la cosa brutta era se a scuola tu scrivevi col mancino, arrivava ovviamente la maestra e cercava di correggerti e tu con la mancina. E sì. Tu gli rispondevi così. Rompemos botella, matamos familia. E lì, insomma, secondo me, cioè, lì c'era l'intervento del demonio, se tu facevi una cosa. Comunque, il non spagnolo è praticamente il cugino piccolo di Balotelli, per dire. Ma Simone, c'è un audio di Samuel Elf in chat, vogliamo sentire? Samuel Elf Jackson. A nostro rischio e pericolo. Sì, certo. Ok, datemi tempo, voi intanto commentate la partita. Comunque, siamo ancora 0-0 al ventesimo minuto, chi se lo fosse mai creso. Dai. Non ci possiamo lamentare. Stiamo sopravvivendo, tu dici. Sì. Dire. Beh, un onesto 0-0. Qui facciamo un contropiede. Attenzione, però. Beh, sì, ok, ma se la devi mettere in mezzo. 15 giocatori. Se la devi mettere in mezzo, un po' di convinzione, però. E se no, te la tieni. Quello cerca di fare quasi una rabbona. Vabbè. E poi che cazzo è la rabbona, scusa? La doppia finta col piede dietro, il tricchetto, no? Tu gli fai la rubona. La rubona la facciamo noi, siamo io. Ma secondo voi quando Spalletti dice uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, con quell'espressione da macho, sta facendo il democratico oppure mira alla svolta autoritaria? No, uomini deboli e intestini deboli, deve aver capito male. Io è una domanda troppo sofisticata e non so dare una risposta. Di sicuro so che Spalletti non è un avvezzo alla democrazia, insomma, questo. Però d'altronde anche tutti i grandi allenatori. No, scusate, ho spinto un pulsante a caso mentre cercavo di abbassare il volume. Perché c'è questo ritornello della base musicale che mi ha un po' rotto il cazzo. Ecco, diciamo, in francese. Sai che c'è? Che è un po'. Cioè. Ti trasporta, poi lo cominci, vai in loop anche tu e ti perdi con lui. Esatto, lo cambierò. La prossima partita metterò qualcosa tipo, che ne so, i Maori che cantano sotto, qualcosa così, insomma. Comunque, Gualdi, tu sapresti rispondere alla domanda che ti ha fatto Samuel Health? Si è scordato no. La domanda. No, l'ho già dimenticata la domanda. Pensavo fosse una di quelle domande aperte. No? Allora, la domanda bisogno. La ripeto io. La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? 42. Esatto. Ma posso. Te la sei giocata mo, non la puoi più usare. Intanto vi ricordo, che ovviamente tra primo e secondo tempo metteremo un brano a caso. Un brano a cazzo, sì. Che alla fine della partita sentirete la sigla di chiusura, che è Mister Vero nella versione finale, che l'altra volta abbiamo sbagliato, invece stavolta abbiamo la versione giusta, insomma, per correttezza nei confronti di Marco Gualdi, che essendo sindacalizzato ci può creare dei problemi. Esatto. Quindi, insomma, sono ore e ore di lavoro dietro quella canzone. Beh, ma insomma, la Spagna, la barbabietola da zucchero, ce l'hanno. Non gli manca. No, ce l'hanno, però non la esportano. Se la mangiano tutta loro. Se la tengono loro, perché anche se non gli serve, proprio principio. No, la usano per fermare le porte, la usano per... Magari in Spagna i biocarburanti si possono usare a differenza che in Italia, quindi la barbabietola da zucchero gli serve, un po' come in Francia. La usano per fermare le porte, come tanta gente fa con lo ZX Spectrum. Esatto. Okay, loro usano le barbabietole da zucchero. A posto tuo Spectrum. E comunque no, sì, gli spagnoli usano i biocarburanti e vanno gridando biocarburante in giro per le strade, ed è terribile. Ok. Insomma, vabbè, tipo l'altra volta Dio Apple, insomma. E tra l'altro ci abbiamo fatto anche una bellissima immagine. Francesco ci ha fatto una bellissima immagine con l'intelligenza artificiale. Attenzione, sfondamento dell'altra. No, niente. Qua poteva finire a calcio di rigore. Cercato in tre. Però giocata male. Se la sono presa under Q. Scusate, mi stai ammazzando lo spacciatore, non si fa sta cosa. Forse l'unico problema della Spagna è che se la sentono galla. E quando tu te la senti calla vuoi far fighetto, capito? Cioè, insomma, però comunque da qui, insomma, prima o poi il gol neanche più di tanto arriverà, anche se secondo me che al momento ci stanno abbastanza schiacciando le nostre tre quarti. È una tattica, Sbano, su, ma che te lo devo spiegare io? Facciamo finta di perde? Quella è la tattica. La nostra tattica è far sembrare che perdiamo 1-0. Okay. Ha funzionato con l'Albania, Esatto. Guarda, li fregiamo così, cioè noi abbiamo un gol i primi 30 secondi, così poi rinculiamo, ne avevamo 90 minuti per recuperare. Esatto. Per farne due, non se l'aspettano, cioè, ma che me ne fanno due, invece bam, capito? Vabbè. Comunque ha funzionato, ma la seconda dai, che mo tira la staffilata, ecco là, e t'avevo detto. Vabbè, è sempre tempo bruciato. Sì, ma tutti i tiri possono pure tirare altri 15. Questo invece di Donnarumma era un 5-3, vedi, ogni tanto cambiano perlomeno. Sì, Donnarumma, che insomma... Dollarumma, per favore non sminuiamo. Dollarumma, che dovrebbe insomma evitare adesso poi di aprire bocca in generale, anche se deve dire solo mia, è meglio che non dice niente proprio. No, comunque... Paradona, il suo lavoro lo fa. Paradona, bisogna dire che Paradona, insomma. Ma il fratello di Donnarumma che fine ha fatto? No, non credo che... Allora, una volta che lui è andato al Paris Saint Germain e non se lo so accollato, l'hanno porcato. E il Milan penso che l'ha buttato nel umido. Senti, vattene a fanculo, ma... Allora l'hanno mandato in Serie B, C, probabilmente sarà il terzo portiere del Monza, cose così. Ma era portiere pure lui? Sì. Ah, allora proprio è una cosa di famiglia. Ma è solo così per forma. Secondo me non ha mai giocato una partita in vita sua. No, il punto non è che ha giocato o non ha giocato, è che comunque è riuscito a fare... L'intercessione con le del fratello è riuscito praticamente a fargli firmare un contratto da 1 milione all'anno col Milan. Poi dice: perché Donnarumma se n'è andato? Perché non solo erano a collo lui. Comunque era Raiola, Raiola, sì, per carità. Però salutiamo Emino Raiola, insomma, che da lassù ci guarda e scommette. Guarda. Ma sì, tanto ci pensano il cugino e tutto il resto della gang de Nino Raiola che continuano imperversare. Mino, perché quello sennò è Nino non aver paura, capisci? Insomma, sbagliare un calcio di rigore. Esatto, non è mica da questi particolari. Antonio Donnarumma, fratello maggiore di Gianluigi Donnarumma. Era pure maggiore. Dopo aver giocato come terzo portiere nel Milan, è attualmente svincolato. Ha lasciato il Padova, squadra di Serie C, nel 2022 e da allora non ha firmato per nessun altro club. Si è parlato di un possibile interessamento della Juventus Next Gen, la squadra giovanile della Juventus, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Scusa, ma se è più grande del fratello, come fa a giocare in una giovanile? Cioè, avrà 30 anni. Ma fa quarto infatti portiere. Non c'ha senso. No, infatti. Vabbè. non c'è senso qui già. Comunque, Gemenai ha guadagnato più soldi. Allora, così, allora lui come terzo portiere ha guadagnato, secondo me è un record, è un Guinness dei primati, perché come terzo portiere ha guadagnato più di un secondo portiere, ma ha guadagnato Guinness, comunque più di quello che avrebbe guadagnato lavorando. Ma bisogna poi anche vedere, uno non è per pensare male, però bisogna anche vedere se in realtà questo è stato un escamotage, i soldi andavano comunque al fratello. Ma non credo, sai. Cioè, a quel punto te facevi. Che non glielo regali un milioncino che non è manco tuo, a tuo fratello. Esatto, cioè, è una cosa, un modo per ruspa soldi. Così. Ma io posso fare qualcosa pure io. Io pure, dai, io pure. Mamma! Ma tu sei più grande, che fai, lo scemo? Comunque, ecco, diciamo, Donnarumma. Ricordiamoci che Donnarumma è quello che il giorno dell'esame di maturità non si è presentato. Sì, l'abbiamo perché... parlato l'altra volta. Sì, sì. Proprio perché, vabbè, sta cosa è stata ridicola. Ha detto una cosa tipo: preferisco giocare con la Switch, una frase del genere. Vabbè. Vabbè, lì, ma la mancanza di rispetto all'altro, quelli lo stavano aspettando, compreso il testimone, lo studente, l'ultimo che rimaneva. Perché lui. Attenzione. Staffilon, boom. Comunque, diciamo, so, Donnarumma c'ha questa dote. Nella vita è stato fortunato perché più alle palle. Sì. Che detto così, insomma, c'è molta gente che fa soldi pigliando le palle, cioè, quindi tutto sommato non è l'unico, non è il primo, non è l'ultimo sicuramente. Comunque sì, belle azioni sì, se tifi Spagna sì. Sono tutti quanti dalla stessa parte, però belle azioni. Secondo me al secondo tempo vogliono confonderli, al secondo tempo saranno così tanto abituati a stare a quella metà di campo. Ah, ok, dice che la rimaniamo si tutti dal lato loro. Dentro, esatto. Potrebbe essere. Anzi, spero nel lato gold, perché magari. Ma infatti il fatto di cambiare campo tra primo e secondo tempo, secondo me è una strategia. Perché dietro ci può essere pure una confusione. Cioè, guarda, tu devi continuare ad attaccare lì e giustamente, tipo quello lì, mamma mia, come sto, quello con i capelli da tossico. Può essere che si confonde. Ma oddio, secondo me lui è quello che ci stupirà, è quello che poi sui 90 minuti reggerà meglio. Potrebbe avere un problema dopo l'antidoping, però non è detto, insomma. Non avrà problemi se muore di infarto prima. Ah, beh, certo. Quindi. Cosa che abbiamo visto che nei campi professionistici ultimamente tende a succedere. Succede, insomma, esatto. Oh, si fa di tutto per saltare contro. Allora, questa partita, ragazzi, è un incrocio fra Italia-Olanda, quella che è finita 0-0 con 50 tiri a 0 dell'Olanda, pali, rigori sbagliati. E poi abbiamo vinto i rigori col cucchiaio di Totti. Ma così è un incrocio fra quella e Italia-Spagna 2-1 ai tempi supplementari, se non sbaglio, con gol di Baggio in contropiede. Ecco, con la differenza che noi stasera non abbiamo Baggio. Chi sarà il nostro Baggio questa sera? Sì, Samuel, però un dettaglio, essendo una partita del girone può finire 0-0 senza andare supplementari, cioè finisce 90 minuti, quello che esce. Chi esce, esce, chi non esce. Perché quel che viene fuori, viene fuori, non è che... Chi si leva là, se va là, chi deve detto le pa delle pa, no, quelli sono francesi. Le pa delle pa delle ma. Esatto, della... come si chiamava il cantante? Sì. Che Aznavour, che era? No, quello là di prima, il cantante Jorge Madogno. Jorge Madogno. Che bello, ragazzi. Spero di incontrarlo. Insomma, magari se ci rincontriamo nella semifinale. Ci può dirlo, magari. Tutto può essere una vita. Ma secondo me noi potremmo anche invitarlo ad altri programmi della radio. A e, prescindere, dice. Sì. Anche perché sono sicuro che preparerà altre hit. Sì, anche perché noi stiamo organizzando con Gualdi il festival internazionale. La sciatica, ragazzi. Lasciatica. Brutta storia, la sciatica. Che stai bene, Ciccio. È così. Vediamo il fallo. Guarda, mamma mia, che fallo bruttissimo. Non si capisce. Arriva, boom. Vabbè, d'altra parte, d'altra parte te chiami Barella, c'è sta pure. Beh, però dai, ha fatto una bella giravolta. Sì, ha girato, ha fatto una bella giravolta. Se guardate bene il replay, secondo me ha rischiato di farsi male col braccio più che altro. Sì, perché è caduto proprio de gomito. È brutto poi, eh. Sì. Cioè, avete mai preso la botta sul nervo del gomito? Sì, una cosa... non a questo livello, però sì, sbattuto a casa, tipo sul pavimento, comunque sul duro, ecco. Tra l'altro, noi ci giocheremo la prossima settimana, lunedì prossimo, vi ricordiamo che lunedì prossimo ore 20:50, sempre qui su runtimeradio.it, con la Croazia. Avete visto la Croazia che c'ha quella influencer che praticamente segue le partite mezza nuda. No, però e ha fatto impazzire mezza Europa. No, insomma. Ora che lo so. A questo punto guardiamola pure noi. Che cazzo c'è? Ma a questo punto seguiamole anche noi mezzi nudi, scusa. Ma noi siamo già mezzi nudi. Ah, è solo che non lo saprete però mai. Però loro non lo sanno. Esatto. No, ma noi, quindi fatemi capire, noi abbiamo avuto il culo o per qualche motivo, diciamo, di ranking a giocare tutte le partite delle eliminatorie del girone eliminatorio di sera? Bucio de culo. Nessuno ci è capita di pomeriggio? Mi pare di no. Fresca, mi piace. Sì, infatti, ma penso che forse è stato steso il nostro spacciatore di pecorella. Come si chiama? Cicoriella? Come si chiama? Cicoriella. Curcumella. Come si chiama? Gargamella si chiama. Che caparezza, non lo vedi? Sì, sì. Non a caso, infatti, Gargamella era convinto di giocare contro i blu stasera. Vabbè. E invece no. Si è trovato una amara delusione, che è quella di giocare contro... L'avete visto il film dei Puffi? No. Io lo voglio vedere. No, c'è solo un film dei Puffi, che è il Flato a sei Puffi, e va visto sotto acido. Quella con Sol Famì. Quello va visto già è... Io ero innamorato di quel film. Sì, anch'io, però è veramente sotto acidi già il film, e lo devi vedere sotto acidi anche te, perché sennò perde tutto il suo senso. Ero bambino, quindi già di mio ero sotto acidi. Perché... John e Solfami, quando trovano i Puffi la prima volta, stanno sotto in stato d'allucinazione, capito? E infatti poi alla fine del film non si capisce se loro sono stati veramente al villaggio dei Puffi o se è stata tutta un'allucinazione. È tutto lì il gioco. Insomma. Anche perché io non vorrei, ma vi ricordo che case dei Puffi sono funghetti. Esatto. E ricordiamo anche il fatto che i Puffi sono 99 maschi e c'è una femmina. Tra l'altro... Ho scoperto recentemente che loro sono dei cloni. O che lei è stata tipo clonata. No, allora Puffetta è stata creata senti un po'. Questa la voglio sapere, perché questa è importante. Puffetta l'ha creata Gargamella per mettere zizzania tra i Puffi. Ma lui l'ha creata coi capelli neri, castani, proprio scuri, nera e stronza. Cosa ha fatto per risolvere il problema il saggio grande Puffo? L'ha fatta diventare bionda e svampita. Perché Puffetta è bionda? Perché è stupida. Capite? Svampita, mentre prima, quando era cattiva, era perniciosa. Bel messaggio, insomma. Esatto, quando era bella, cattiva, perniciosa, diabolica, era nera corvina. Gargamella l'ha costruita così, cioè costruita, creata, insomma. Che schifo. Ma come l'ha fatta? Io so che non mi ricordo. Incantesimo, pozioni magiche. Ma poi perché eccetera. Se li vuole mangiare poi sti cazzo dei Puffi? Allora, buoni. No, non è che se li vuole mangiare. No, per trasformare in oro le cose. Ti servono sei Puffi per creare l'oro. Per trasformare i Puffi in oro ti servono sei Puffi. Io però, meno, ci fai la zuppa. Esatto, ma se so di meno, esatto. Ci fai l'oro. Cioè, quindi lui se c'ha le brutte si mangia. Questo. Esatto, fa il caciucco di Puffo. Cacciuffo. Il caciuffo, esatto. Il caciuffo, vabbè. Cioè, hai capito? Doveva essere la telecronaca di una partita questa. Esatto. No, vabbè, ma chi l'ha mai detto? Siamo arrivati ai Puffi. Vabbè, comunque in ogni caso sono belle Puffi, cose. Sempre. Potremmo parlare di Solcoz e Colcoz, visto che ormai siamo qui. Di chi? Colcoz. Colcoz. Nel frattempo c'è l'Italia che cerca ancora di perdere per la sua incredibile strategia della... Mi prendo un gol così non va, aspettate. Prendo un gol così vi credete di essere più forti. Esatto. Questo è... Abbassate la guardia e ve ne faccio due. È così che funziona. No? Ho capito. E insomma, vabbè, mi avete illuminato su questa questione dei Puffi. Perché io l'ho sempre guardato i Puffi. Devo dire, mi piacevano. Anzi, vi sto per confessare una cosa importante. Io avevo una ampia collezione dei Puffi. Ma nei primi anni 80 andavano tanto. Ed ero grandicello, avevo già 14-15 anni. Ah, c'avevo, e mi ricordo che c'era il tabaccaio che ce n'aveva una marea, io uno a settimana me li compravo e alla fine sono arrivato al punto in cui, insomma, mi hanno comprato pure le casette. Capito. Poi, morto de fregna come tutti i ragazzini a 15-16 anni, l'ho regalati tutti a una ragazza che non te l'ha data, ovviamente. Si è presa i Puffi. Ha preso il meglio di me. Esatto. No, se lei si è preso. Ah, che carini, grazie Simone. Sarà un fratello. Il mio ragazzo ne sarà contento. Esatto. Eravamo in tema. Questa poi è quella. Non lo so, gli strani ometti blu sono alti su per giù. Un cazzo poco più. Un cazzo poco più. Vivono via da qui. Ma questa è quella originale. nell'incantata città, riparata dalla selva, dal deserto, dal monte e dal mar. Sono case buffe assai. No, non so quanto, come si... Io immagino qualcuno che sta guardando la partita tenendo basso e ascoltando noi. Sì. I funghi, funghi. I funghi, i funghi. Hanno un ponte che fa. Attraversano per... Ponte che si... Ricerca esatto. Nella foresta quel che più gli serve, più gli va. E via dalla città. Attenzione, controvia dell'Italia. È già finito. È già finito. Li vanno a trovare. Perché noi siamo furbi. Se per caso la palla finisce nella loro metà campo, noi se la riportiamo indietro. Esatto. Se no si prendono loro. Esatto. Se no te scopri dopo. Maledetti puffi, vi avrò e vi ridurrò in cure. Lo vedi? Lui si vuole mangiare 300 volte più. Scacciato questi qua, lontan dalla città. Però non è mai riuscito a mangiarsi. No. Neanche uno. Neanche lui. Poi, recente... Ma perché io dico, una volta che li catturi, cucinali subito, non che li chiudi nella gabbietta, te ne diversi. No, ma lui si metteva a cucinare. Attenzione, attenzione. Era un coglione, gli scappavano sempre. Non era un coglione, tra lui e Birba, come si chiama Birba? Birba, il gatto Birba. Finisce più sta canzone. No. È un medley lungo. Mannaggia Cristina ad avere un concerto. E vabbè. La lalla. Parlavamo dei funghetti, giustamente. Mamma mia. E no, mi interessava perché a me i buffi, non so perché, mi sono sempre piaciuti. I buffi a me non mi sono mai piaciuti. Tra l'altro, ho visto non so quanto tempo fa, ma non moltissimo, un film in CGI. Quindi dei buffi. Sì, ne hanno fatti un paio. Dove loro praticamente accidentalmente scoprono un villaggio di buffi ancora più segreto del villaggio dei buffi. Perché sapete, il villaggio dei buffi è protetto da una sorta di magia, no? Che lo tiene nascosto dal mondo. E quindi loro praticamente riescono a scoprire questo villaggio dei buffi, che sono ancora più nascosti del villaggio dei buffi normali, dove è popolato solo di puffe femmine. Ah, ok, cioè come li chiamate? Puffi stronzi. Pensa un po', puffe femmine. Puffe femmine, e secondo me poteva essere l'incipit da un bel film porno. Ma secondo me c'è un villaggio tutto di puffe femmine dove c'era un puffo maschio. Esatto. Pensa un po', come si chiama? Puffo Rocco. Fortunato. Puffo Rocco. E c'era la grande puffa. Capito? C'era la grande buffa e praticamente no, vabbè, sì, esatto. Tipo, ma no, non so, mi pare che era più giovanile. Voglio capire com'erano i nomi, che ne so, cioè. Blaugioba. Non lo so. Piovi, Milfetta. Lavoro di mano. Handy. Non lo so, però questo è becero quello che stai dicendo, guarda. Mi tocca che mi dissocio, mentre che la Spagna dissocio. Mentre la Spagna continua ad attaccare, però un po' sterilmente, diciamo, anche il gol. Bah, diciamo che questo primo tempo non è che ci ha illuminato. Ha trasudato grandissime emozioni. Un paio di volte Donnarumma si è dovuto guadagnare lo stipendio che non prende, però insomma. Perché gioca gratis? No, beh, in nazionale credo che prendi un gettone, però. Ti ricordi il telefono? Sì. Anche. Infatti lui dopo ha telefonato, poi che ha preso il gettone. No, sì, non si prende lo stipendio, non si viene pagati per le competizioni nazionali. Ma che triste, ma allora cosa vanno a fare? Forse un rimborso spese. Dov'è la motivazione? Infatti non ce l'hanno. Comunque ci sono i premi per gli obiettivi. Sì, sì, però vabbè, questa è una cosa proprio più recente, una volta non ce l'hanno manco quelli. Cioè, tu pensi che l'Italia del 1982, quando ha vinto il mondiale... Aspetta Simone, un momento, che qua la vedo... Vabbè, per fortuna gliel'ha tirata addosso. Vabbè, però, capito, cioè, poi, come diceva, insomma, alla fine abbiamo attaccato tanto a poco, ma insomma, le statistiche non fanno ma il punteggio. Sai che c'è? È la dura legge del growl. Fai un gran bel gioco, però, se non hai difesa, gli altri segnano. L'abbiamo messa l'altra settimana. Loro stanno chiusi, ma alla prima opportunità... Sennò salgono subito e la mettono dentro a noi. Se no la rimettevamo. No, perché però, insomma, abbiamo già dato, insomma. Comunque, siamo arrivati al 41esimo. No, ma questo era per raccontare i traumi della tarda adolescenza. Era solo per dire che comunque certe cose ti segnano. No, invece stavo dicendo che siamo arrivati al 41esimo e il trauma di questo anno ancora non è arrivato. No, quindi. Comunque la scritta Italia dietro è veramente una cosa brutta. Ma pare posticcia. Ma poi nera. Ma poi nera. L'altro, la cosa brutta, forse perché la fa bianca. Cioè, comunque è grigia. Se la fai gialla sembra che se sei dell'ANAS. Sembra dall'altro. Di Natale è più grande. Sì, la giacca non gli sta per niente a Spalletti. Sembra che non è la sua. Infatti io volevo capire se inquadrassero di spalle anche Steve Jobs, che è palesemente l'allenatore della Spagna. C'è scritto Spagna? Esatto, Spagna. C'è scritto qualcosa. Che te vai Jorge Madonna. Ovviamente. Che è quello che fa tutte le canzoni, l'inni. Ah, attenzione, va, certo, vuoi partire dalla tua tre quarti, ma magari vorresti arrivare in area di rigore. Guarda, sta soffrendo. Beh, non vedo delle scene così. Oh, no, guarda che faccia una stecchetta l'ha presa. Però l'arbitro l'avete visto con che disinvoltura e con che calma è arrivato l'arbitro, quella è la cosa. Dice anche il nostro Mister Zero che la giacca di Spalletti sembra comprata dai cinesi. Sì, è proprio è quella dello zio di una taglia più grande. Vediamo un po'. Oh, perché proprio a me? Vabbè, comunque, secondo me si stanno a stancare. Cioè, la tattica è quella di farli stancare. Gli italiani sono belli riposati. Se tu ti ricordi, era la tattica che usava Rocky Balboa. Cioè quello dei piani. Si faceva meno a per 10 round. Esatto, e quello alla fine gli faceva più da due cazzotti e lo ammazza. Te stai confondendo con Homer Simpson, però. No, pure Rocky Balboa lo faceva. Anzi, Rocky Balboa quando combatte contro Mr. T, gli diceva pure: Non mi fai male. Non fa male. Mia madre me ne dava più forti. Perché con la voce di Amendola, no? Che più forti, tipo la Zeppola. Mia madre me ne dava più forti. Già la Zeppola di suo, poi ovviamente aveva anche il paradenti, perciò capirai. Sì, era lui. Sì, ma poi lui ha sempre raccontato che gli dicevano: sporcalo. E lui sporcava. Tasi sporca. Tra l'altro, vabbè, gente che piange in continuazione, che è successo? Sono spagnoli, non c'è nel senso dell'ironia. È un modo de fa, cioè, capito? Ci sono... No, si avvicina, gli do il pizzichetto, Vabbè, dai, su, ma che io ho fatto? Matamos familia. Rompemos botella, matamos familia. Insomma, ma perché rompemos bottiglia, non è spacamos bottiglia? Perché ChatGPT gli ha suggerito male. No, non è ChatGPT. No. Questo è DeepL e Google. Secondo DeepL e Google, se dice rompemo, spaccamo. Beh, allora, se lo dice DeepL va bene. Anche tutte se poi, se tu hai visto, c'è anche la possibilità migliora la traduzione. Nuova opzione che hanno inserito da poco. Sì, ma era non sempre. Non ti piace. Tu devi fare come dici tu, se no ti confondi. Vabbè, comunque siamo sempre qui nella nostra tre quarti, ogni tanto. La nostra tre quarti, diciamo la nostra area. Sì, ormai siamo proprio nell'area. Attenzione, adesso è proprio area, vediamo. Che questa è proprio l'ultima azione dei 45 minuti di gioco regolari, prima di non so quanti minuti di recupero, stiamo per scoprirlo. Probabilmente gli amici a casa già lo sanno. Va a uccidere il... Attenzione, no, attenzione che forse potrebbe essere la prima azione vera della nostra. No, ma perché, vaffanculo. No, perché Chiesa dice: ma ci penso io, lo faccio io il tiro di merda. Eccolo lì. Vabbè, questa è statistica, insomma. Cioè, quindi abbiamo fatto il tiro, pom, esatto. L'ha tirata direttamente in tribuna, ma che perché c'era uno dietro che gli stava sul cazzo. E tu ti do una pallona di no, si erano già messi d'accordo. Io, se mi lanci la palla, poi dopo. Te pago. 2 minuti di recupero, solo due. Non ci sono quei bei 15 cazzo, minuti di recupero della Serie A. Non è successo una cippa. Oh, lo spagnolo che ho inquadrato adesso assomiglia al falegname che oggi mi ha montato la porta. Però 20 anni più giovane, va. E sarà il figlio. Sì. Attenzione, eccolo. No, ma che ha battuto tra l'altro. Arbitro cornuto. Ma tipo pesa con la mano, pure una cosa del genere. La mano è. Ma no. Secondo me gli ha sfilato i capelli, cioè. Ma gli ha fatto un cazzo. Ma non gli ha fatto un cazzo. Allora, se nell'epoca del VAR tu lo fai avanti stazione. Ma mi stava a rubar fumo. Arbitro, ma tu nell'era del VAR stazione me la fai continuare. Poi dopo alle brutte intervieni. Intanto hanno ammonito Rodri, lo spagnolo. Così per ammonizione per spirito di contraddizione. Sì, sì, gli ho venduto il fumo io. Sì, certo. io ho venduto il fumo. Come gli so? Oppure la fai proprio come faceva Amendola. Io ho venduto io il fumo, io ho venduto io, capito? Ma io credo che i nostri amici Zero da casa saranno già negli spogliatoi. Mister Zero, che è giovane, secondo me non l'ha sentito mai. Il Rocky Balboa doppiato da... come si chiamava? Amendola, di nome? Ferruccio Amendola, giustamente. No, vabbè, ho capito che c'è. Non è che non è che l'hanno ridoppiato. Vabbè, ma chi se lo riguarda oggi? Mister Zero, diccelo. Avrai visto i Rocky originali, no? I Rocky, i Rambo. Anche Rambo, perché voglio dire, non è che... I rimba. È finito il primo tempo. Allora, ragazzi, vi faccio sentire una cosa. E poi dopo mettiamo la vera canzone di pausa, così noi andiamo a prendere le birre. Però questa canzone ci tengo molto perché l'ho scoperta stamattina. C'è questo artista meraviglioso, un genio che insomma... Eugenio. Finardi? Che praticamente lui prende delle chat e le trasforma in canzoni. Ok? E secondo me questa qui in particolare è da stamattina che la canto, e con Samuel Elf, insomma, ovviamente l'autore di Radio Anziano, ogni tanto ce la ricantiamo. E prima gliel'ho riscritta e lui, cazzo, finalmente mi era passata da testa e adesso me ce l'hai fatta rientrare. È una stronzata, però è una storia pure abbastanza particolare. Io insomma vi inviterei a seguire il testo, perché è un tizio che prova a comprare la moto da un altro tizio in chat, ed è bellissima, ascoltatela. A quanto vendi la vecchia moto? Ciao! Perché dovrei venderla? Perché c'ho i soldi! Ok, ma non ho mai detto che la vendo! Per cosa te ne fai di due moto? Ti do 6.000 euro, le uso entrambe, non la vendo, ma poi vale almeno il doppio! Pigliati ste 6.000 euro e non rompere i coglioni! Ma tipi, non rompere tu i coglioni! Dai cavalla! Cavallo un cazzo! Porta rispetto! 10.000, ci sei? Allora, non la vendo, basta. Spero che ti schianti contro un camion e che faccia poi il reto. Dimmelo per strada, quando mi vedi ti gonfio. Ma come ti permetti? O stai calmo, Rocky? Calmo un cazzo, giuro che ti gonfio. Che cavalla! Adesso stai tranquillo, stavo scherzando. È che voglio la moto, vieni mi incontro. Non vendo sta cazzo di moto, puoi a te dare adesso, lo porti adesso. Mi dici di andare sotto un camion, coglione, chi cazzo sei? Stai calmo, scusami, ti prego 12. Ma puoi anche ora insistere, che problemi hai? Dai cavallo! Io direi che... spero che ti schianti contro un camion. Poi vedo, dimmelo per strada, quando mi vedi ti gonfio. Ma come ti permetti, o sei calmo, Rocky? Calmo un cazzo, giuro che ti gonfio. Che cavallo! Cioè, io devo dire... No, ma l'epopea di questo ragazzo che vuole per forza comprare una moto che non è in vendita, io, cioè, sono estasiato. No, ma voi è proprio... sono le classiche reazioni dal mondo dei social. Io voglio comprare la tua moto, ma io non la vendo, allora spero che tu muoia. Esatto. Struzzo. No, ma c'è un capolavoro. A parte la sonorità di questa canzone, che è proprio figa. Il ritornello, che cavallo! Mi è entrato proprio nel cervello. Cioè, nel senso, cioè, è da paura quella che è uscito fuori. Cioè, Marco, tu che sei insomma oramai esperto di costruzione di canzoni, sì. Udio. No, ma al di là di Udio, dico, insomma, facci una tua opinione. Studio? Beh, bello. È bella, è figa. Devo dire, cioè, una bella costruzione, questo ci ha lavorato un sacco. Dai, vieni che è partito da 6.000, è arrivato fino a 12.000. Eppure, cos'è che questa storia io in realtà l'avevo letta già. Si vede che sì. Io vorrei sapere questa che moto X, il tizio non so, vattene a cercare un'altra. C'è un'altra canzone sempre fatta sulle chat, che lui, che il tizio si è tagliato, si è fatto un taglio profondo e non trova l'acqua ossigenata, gli dice all'amico di andargli a comprare l'acqua ossigenata e i cerotti, e lui gli dice di pisciarci sopra. Cioè, no, mica la medusa pisciarci sopra perché disinfetta. Lui dice, come faccio, sta sulla spalla, e lui ti di su e ti piscia addosso. E insomma, continua tutta sta storia bellissima. Insomma. Vabbè, un piccolo break anche per noi, che andiamo a prendere le birre e torniamo fra pochi minuti. Ni un puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin tu pelo. No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa y casi voy al talego. Acuerdos de sindicatos, de gobierno y empresarios me han dejado sin el paro. Trabajando muy jodido cuando me iban a hacer fijo. Y es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal, no nos toques los cojones, iros todos a mamar. Cortar gastos sociales, apretando al pensionista, repatriar al inmigrante. Es política de ricos, empresarios y banqueros multiplican su dinero. Enriqueces al que tiene, al que no tiene detienes. ¿Cuántos perros obedientes? Cuando pasen cuatro años y lleguen las elecciones, va a votar su puta madre. Es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal, no nos toques los cojones. Io ho sentito la burra. Iros todos a mamar. Fa la schiuma ma non è sapone. Già lo stesso diavolo te dà l'opportunità. Oh, è ripartita, aspetta. E ponerti a mendicar, queremos igualdad de anarquía y fraternidad. A la tumba de Durruti nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Privatizado todo, nos han chapado los bares y nos joden los conciertos. Desalojan los cateches, nos limitan la cultura como en una dictadura. El Congreso es una mierda, el Senado una mentera, no representáis a nadie. Y es que en esta democracia siempre gobiernan los mismos, solo cambia el maquillaje. Y es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal, no nos toques los cojones, iros todos a mamar. Y a veces este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en la anarquía y fraternidad. A la tumba de Durruti nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Vabbè, diciamo che questa canzone è stata carina, però non finiva mai. Cioè, nel senso, ogni volta stavo per rientrare. Fine pena mai proprio. Sembrava che stava a finire e poi ricominciava. Cioè. Però, allora, sono arrivate le birre, quindi la partita non può che migliorare. Esatto, adesso in poi qualsiasi cosa. Intanto facciamo un'analisi, insomma, di quello che è stato questo primo tempo. Secondo me la tattica dell'Italia sta funzionando al 100%. Questo dimostra la superiorità del calcio tattico italiano rispetto al calcio fisico estroso degli spagnoli. Cosa ne pensi, Walter? Beh sì, la nostra tattica di fingerci morti e far giocare solo loro ha funzionato. Esatto, che poi nel senso, è come quando tu incontri un orso, tu fai finta di essere morto e lui ti ignora, insomma. Si spera, esatto. Intanto Waldi sta cercando cose che prima o poi mi dovrà mandare. Cerca cose, vede gente. Esatto, nel frattempo... Comunque insomma, anche il nostro Mr. Zero, che è l'afficionato, ascolta, praticamente stiamo facendo la puntata per lui, questa cosa se la ricordi nella vita. Esatto. E conferma anche lui, dice: sta canzone non finisce mai. Sì, era un po' un'agonia, però. E vabbè, però insomma, almeno era spagnolo. Tu hai capito che diceva, noi no. Quindi hai un vantaggio rispetto a noi. Che tra l'altro, sai che cosa ho scoperto? Una cosa affascinante: che sebbene italiano e spagnolo sono le lingue che si capiscono di più fra di loro, sì, in realtà sono le meno simili dal punto di vista grammaticale, perché la lingua più simile grammaticalmente all'italiano è il francese, che è la lingua meno comprensibile rispetto allo spagnolo. Che cosa curiosa. Beh, poi per esempio noi abbiamo tutta una serie, vabbè, noi come lingua abbiamo una serie di contaminazioni che non finiscono più, no? Perché voglio dire, abbiamo avuto comunque sia i romani. Sì, certo, esatto, ma poi abbiamo avuto anche varie dominazioni, per esempio il catalano è molto simile al sardo. Beh, ma non è che è molto simile. Allora, intanto in Sardegna non c'è un dialetto, ma c'è una vera e propria lingua. Esatto. Neolatina. E questo è un caso. Cioè, ma il genovese e alcuni altri dialetti italiani hanno molto a che fare col portoghese, con lo spagnolo. Quindi, insomma, non è un anche lì non è esattamente un caso. Siamo un paese ipercontaminato ed è per questo che mi fa ridere quando sento la gente che dice l'identità italiana. Sì, le tradizioni. Ma che cazzo, siamo stati il primo melting pot della storia. Ed è forse stato anche la nostra fortuna da un certo punto di vista. Sì, perché abbiamo un patrimonio genetico variegato che ci permette anche di essere tra le popolazioni più longeve del mondo. Variegato a Nutella, variegato a Fragola, alla Marena, sì. Esatto. Guardi, tu che cosa ne pensi? Stai ancora cercando? No, ti ho fatto cenno, vai, sei su Telegrams. Ah, su Telegrams, ok. Potrebbe anche non essere finita, non mi ricordo, però credo che sia finita. Vabbè, voi intanto parlate, Marco, ciao, come ciao, stai? Io bene. Che gradisci questa birra di cui non possiamo dire il nome? Perché non ha voluto pagarci. Perché fa un chiaro riferimento. Ma guarda che lo vuoi anche dire. Fa un chiaro riferimento al picchiare dei sionisti. Esatto. Però non so perché, non è colpa, non lo dice il nome. Ah, ok, certo. Quindi. Sì, infatti. Poi è leggerina, quindi può anche spaccare bottiglia. Sì, ma prima la finisco, insomma, perché è una 0,66, non posso spaccare con tutta la birra dentro, sarebbe molto... Perché guardi, non parli vicino al microfono, per esempio? Perché sto bevendo. Ma sono 20 anni che glielo chiedi. Bere e parlare col microfono? Cioè, è impossibile, Pizzi. Quindi, infatti non stavi bevendo, stavi parlando. Quando sto parlando mi allontano, è per bere. Ma vista da davanti la giacchetta de Spalletti sembrerebbe anche giusta, scende allora, le spalle giusto. Però Spalletti, non c'ha le spalline. E che non c'ha le spallette, Spalletti. No, non è lui, perché non ce l'ha lui. È larga, insomma è larga comunque. Cioè sì, quando allarga le braccia scende male, strano. Sì, non è... Quando allarga le braccia fa l'aquila di sangue. Sai che c'è? Che sembra un taglio sartoriale di una trentina d'anni fa. Non so, non è una giacca al passo coi tempi, boh, non lo so. Strano, forse. Perché noi di solito si presentiamo sempre con Valentino, Armani, Gucci. Ma credo che i completi della nazionale li facesse Armani, non vorrei sbagliare. Però che vedevo di ormai coi tempi che corrono magari era cinese. No, no, diciamo poi che c'è anche quell'espressione, insomma, che secondo me raccoglie un po' tutto il mondo, che è anche sti cazzi, insomma, diciamo così. Poi sì, non so come la vedete voi, perché a me alla fine la giacca d'Armani non me la compra nessuno, quindi no, vabbè, ma io non, cioè, neanche ci penso, io non sono tipo da giacche, non mi stanno bene, quindi figurati. Non stai bene, insomma. No, ma io non sto bene in generale, però. Esatto, a prescindere e in qualsiasi situazione, però. Ed eviterò di raccontarvi l'ultimo mese di vicissitudini che mi hanno visto sparire dall'etere, però insomma. Ma poi quando torneremo con Popcorn, sì, a voglia, insomma, perché comunque, come avete notato, insomma, in questo periodo Popcorn e anche Runtime by Night sono messe leggermente in pausa. Ma fa caldo, ragazzi, fa caldo, non si può fare. Non si può fare. Pensate che è metà di giugno. Quindi. Vabbè, ripeto, siamo stati fortunati, ci sono estati che, di, recenti che sono iniziate ai primi di maggio, quindi accontentiamoci. Infatti, poi vabbè, in realtà stiamo morendo tutti, questo lo sappiamo. Quindi. Vedi, stiamo a zicchinicchi, vedi, c'è scritto, sì. Allo stadio di zicchinicchi. Zicchinicchi, zicchinicchi. Cristonante, è entrato Cristonante. Senti, ma anche questa canzone è sempre di Jorge... Jorge Madogno, però sì. Era, sì sì sì, è sempre lui, però aveva la voce un po' più pulita. Ah, ok, ah, cioè, non, è che, pensavo, non è che è una donna. Featuring. No, no, no. No, ah, perché lì era un po' più sporcata, no? Da, dall'effetto ska rock. Perché sono degli esperimenti, sperimentano moltissimo. Moltissimo. Questo è più ska. Oppure lui, potrebbe anche essere l'autore dei testi, insomma, dei, della musica. Ci può essere un po' come storie tese, non è? Featuring, featuring. Vabbè, no, si sta caricando, abbiate un po' di pazienza, insomma, così poi iniziamo col secondo tempo. Che secondo penso... me, attenzione, comunque è entrato Cristonante e secondo me questa cosa ma sarà non è una... Cristonante, come no? È Cristante, fidati che è Cristonante e secondo me questa cosa cambierà le sorti. Svolterà la partita. Vabbè, ma io no. Vabbè, c'è la solo, aspettiamo la solo. Si legge Hassol. Hassol. Tanto lo spagnolo è stato ucciso. Sì, da Cristante. Ragazzi, ho appena scoperto una cosa. Ho appena scoperto che il nome di battesimo di Cristante è Brian. Sì. No, non lo sapevo. Lui non è italiano. Cioè, nel senso... Sì, chiaro. Non è italiano, no, non è italiano. Non è nato italiano. No, non è italiano. Che schifo, non è italiano. Queste gente colorate. Beh, che c'entra? Italia. Anche la figlia dei Totti si chiama Chanel, eppure è nata a Ponte Milvio. Cioè, vabbè, ma quello è per un altro motivo. Eh però, sì, lo so, era per dire, cioè, nel senso. Io c'avevo. Un po' come Brian Boitano, la stessa cosa. Una collaboratrice che. Anzi, che è scritto Brian con la Y e non Brian. Perché... esatto, come è successo a una mia amica che si chiama Ketty con la E. K-E-T-T-Y, quindi insomma è la piccola Ketty. Esatto, è Ketty Boccia, lei si chiama Ketty Boccia. Salutiamo Ketty, grande maestra Ketty Boccia. Era messa esatto, che ma se era Ketty Boccia era meglio. C'è anche allora vedi, era anche però insomma, poi alla fine solo quello. Vabbè. Non mi pare poco. Diciamo. Comunque guardi, insomma, questa canzone che abbiamo ascoltato, di cosa parlava? Io non ho capito niente. Parla di Pablo che era un torero, cioè figlio di un torero famoso. Che però non voleva fare il torero, lui voleva giocare a football, voleva giocare a calcio, e quindi con la balota. Con la pelota. Pelota. quindi lui praticamente lascia la sua città natale per andare a Madrid e viene preso a giocare una squadra di calcio, però lui ha questa formazione da torero, questo retaggio, esatto, okay. Per cui va in giro a giocare a palla nel campo con la picca e il mantello e finisce per infilzare la palla e quindi viene espulso. Quindi, ma hanno ammazzato Pablo è vivo. Esatto, quindi è costretto a tornare a fare il torero, però per fortuna il fato gli sorride e quindi non continua a fare il torero perché viene incornato in plaza e muore. No, ma che triste, è una canzone triste allora. Una canzone triste. Nonostante... Ma sembra quasi un plagio di una canzone di Elio, però poi indago. Però devo dire, Marco, purtroppo la tecnica dei fregalli col cambio del campo, esatto, non ci sono cascati. Non ha funzionato. Quello era il piano A. Adesso c'è il piano B. Piano B è quello di sperare che si facciano male tutti tra di loro. Tra di loro, esatto. Quindi vediamo se questa cosa. Cercando di limitare i cartellini, giustamente. Esatto, perché sono giustamente. Vabbè, ragazzi, che si ci provano. A noi ci va bene pure così, Cioè, ricordiamoci che noi ci abbiamo vinto l'europeo scorso, così, Cioè, porca senso, miseria. Quindi, tutto sommato, il fine. Io non ci posso pensare. Il fine giustifica un i mezzi. Giorno vinciamo un europeo, il giorno dopo non ci qualifichiamo al mondiale per la seconda volta. Del Sai, fila. Però, che ultimamente è uscita fuori una cosa. Vabbè, era già uscita. Una teoria del complotto. No, però era già uscita questa cosa. Proprio per tu sai che si sono qualificati gli Emirati Arabi, sì, no? Sì, lo sanno. Tu la sai parlato. Quella storia, no? Ultimamente l'hanno fatta rivedere, sì. E io non l'avevo mai visto. Quel, inquietante. È veramente una storia triste. Quella che ti ho mandato l'altro giorno, no? Bravo, sì. Okay. E niente, che praticamente l'Arabia Saudita si è qualificata rubando. Eh sì, poco. Cioè, ma rubando nell'epoca del VAR in modo proprio, cioè, della serie. Vai dove è andato il ragazzo, insomma. Esatto, praticamente malgrado le immagini dimostrassero una cosa, l'arbitro ha sanzionato l'opposto con lo sceicco che da tribuna faceva così. Bravo, bene, bravo. Tu non verrai decapitato quest'oggi. Esatto, neanche la tua famiglia. Esatto. Quella è stata una cosa triste. Purtroppo sono 20 anni che la FIFA è in un declino mostruoso, forse anche di più di 20 anni, diciamo così. Però diciamo che quando inizia il declino, tu pensi sempre che ogni volta sia il peggio, no? E invece oramai, quando oramai dice tanto, oramai stiamo nel declino, che ce frega. E quindi ogni volta è sempre peggio. No, che poi io ho sempre detto, vabbè, ma capisco che il calcio è un business e tutto quanto, ma io non avevo mai... Oh mamma mia, non avevo mai capito quanto perché fosse così potente la FIFA, perché non avevo mai realizzato i numeri economici che ci sono dietro al business del calcio a livello mondiale. Cioè, la FIFA fattura come una compagnia petrolifera, cioè, sì. È una cosa impressionante. La FIFA è un organo strapotente. Questo ha comprato il fumo da quell'altro. Esatto. Gli è piaciuto anche. Ai, palla persa. Brutta. Palla persa. Comunque, qui, soprattutto sulla fascia di sinistra, ci stanno a romper culo. Cioè, devo dire la verità. Anche se continuiamo a dire che la nostra tattica continua a funzionare egregiamente, io sono anche fiero e orgoglioso. Ma sì, ma questa, guarda, rischia veramente di finire nel più squallido dei pareggi se continua così. La cosa bella sarebbe il gol dell'Italia in contropiede al 94esimo. Esatto, una cosa del genere, secondo me, penso che la Spagna ci dichiara guerra. Vabbè, esatto, però diciamo che storicamente noi come nazionale abbiamo ricevuto più furti che favori, soprattutto in epoca recente. Mamma per cui mia, ogni ragazzi. Tanto ci starebbe anche bene. E la memoria all'arbitro Byron Moreno. Mamma torna mia, ogni ragazzi. Volta furiosamente. Mamma, quella il silenzio della Boom. FIFA, secondo me lì è stata la cosa peggiore, perché tutti sapevano, tutti si sono resi conto e nessuno ha fatto niente. Cioè, è stata una cosa proprio Ma io credo che a quel punto lì non puoi fare neanche un cazzo. Allora, in teoria no, perché se fai qualcosa devi mandare a monte tutto il torneo. Che sì, cazzo fai? Cioè, comunque lì il problema è che i tornei sono talmente incastonati che se tu ammetti l'errore tecnico, la malafede, e la partita non è più valida. E questo non succede praticamente mai. È una cosa che non viene mai neanche di fronte. Anche perché tu immaginati le partite arbitrate subito in precedenza allo stesso arbitro, ognuno la contesterebbe. Certo. Vabbè, Allora, innanzitutto un arbitro del genere mi si spiega come cazzo ha fatto a finire i mondiali. Ma infatti poi è finito in galera anni dopo. Sì, cioè, esatto. Ricordiamoci. Però la cosa triste è che se voi un errore in buona fede. Voi non ve lo ricordate, ma noi l'abbiamo insultato, l'abbiamo criticato, le Iene, tutto quanto. Ma quando si era un po' calmirata la cosa, non so se voi ricordate che l'arbitro Moreno era ospite a tutte le trasmissioni italiane. C'è stato un periodo che era tipo come si chiama quello là della Costa Concordia lì. Schettino. È un po' lo Schettino dei Noantri, capito? Cioè, nel senso che lo invitavano dappertutto. Perché... Eccolo, è arrivato. Purtroppo la nostra Cristonante. No, Calafiori. Calafiori, ma. Dove succede? Sì. Io non ho capito se è un autogol. Bravo, tutti contenti. Tecnicamente abbiamo segnato noi. Posso dire che la regia è un po' impietosa. Cioè, nel senso, invece riprende gli spagnoli che festeggiavano. Ma forse sono telecamere aggiuntive della Rai, vuoi sapere? No, può essere benissimo. Vabbè, dai, comunque c'è stata. Sì, vabbè. Non è che ci stupiamo più di tanto o ci addoloriamo per questa cosa. È vero pure. Ma no, ho capito, ma hai visto? Cioè, qui attenzione che sono soldi che sono volati. Senza la butto dentro io. No. Ecco, lui no, non ha capito. Non ha capito che avevamo cambiato campo. La tattica si è rivoltata contro di noi. No. E qui allora devo dire la verità. Che è vero che la Spagna se lo merita il vantaggio, ma è vero pure che cioè non hanno segnato fino a mo', no? Cioè nel senso comunque alla fine fa parte comunque no, non ce l'abbiamo solo allora, una scritta devo recuperare una chat perché Mr. Zero ha detto questa partita finisce 1-0 per l'Italia, la Spagna sta sprecando troppo, li abbiamo aiutati noi a non sprecare più poi dice vabbè Byron Moreno appunto anche lui ha ricordato che è stato arrestato niente poco di meno che per narcotraffico sì ma si sapeva e no. Dice Mr. Zero il bello è che nella partita precedente forse i cronisti Rai a Calafiori lo stavano paragonando a Paolo Maldini, uguale proprio a Paolo vabbè, Maldini quando dorme. Vabbè, gli ha detto male, raga. Cioè, non mi sento neanche di piammela con lui. Cioè, nel senso, ammetto giustamente. Infatti, prendiamocela con i genitori. Esatto, prendiamocela col signore. No, con i genitori di Calafiori che potevano mandarlo, che ne so, a fare le magistrali. Che cazzo ne so? Ma poi già che ti chiami Calafiori, insomma. Vabbè, mica è colpa sua. Questa è l'unica cosa che non è colpa sua. Esatto. Se l'è trovato, insomma. Comunque dai, ci sono ancora ben 36-4 minuti, quindi possiamo fare. Sì, possiamo farglielo fare un altro. Possiamo fare un altro sì. Un altro, sai. Insomma, già ti abbiamo fatto vedere che siamo capaci a segnare. Allora, è già tanto. Allora, se questa partita fosse stata Spagna contro Corea del Nord, il telecronista della Corea del Nord avrebbe insistito sul fatto che è la Corea del Nord che ha segnato. Che comunque ha segnato la Corea del Nord, esatto. Quindi. Per delle regole che esistono solo in Corea del Nord, comunque vale. No, tra l'altro stavo vedendo una storia recentemente che mi ha fatto molto ridere. Voi sapete che quando quelle pochissime, rarissime volte che la Corea del Nord si è qualificata ai mondiali, nella televisione di Stato, l'unica che c'è ovviamente in Corea del Nord, trasmettono le partite modificate. Cioè, un po'. Cioè, non le trasmettono proprio in diretta. Le trasmettono. Sì, immagino. Quanti campionati hanno vinto? No, sì, infatti. Però la cosa bella è che praticamente una volta, dato che in Corea del Nord l'informazione dell'estero è niente, cioè è molto relativa, praticamente hanno preso una squadra di Serie C brasiliana. Ba-boom. L'hanno ospitata in Corea del Nord e poi l'hanno fatta giocare come se fosse il Brasile. Quando questi si sono resi conto che li avevano unculati, cioè nel senso che li stavano ancula, e ormai non ci potevano fare più niente. Ma aspetta, chi è stato inculato? Cioè la squadra brasiliana. Ah, ok. Cioè, nel senso, la squadra brasiliana era andata lì per fare un amichevole, l'hanno chiamati, l'hanno pagati, l'hanno fatto venire tutto quanto. Però quando poi sono andati là si sono resi conto che sullo schermo non c'era scritto Corea del Nord contro Sao Paolo, capito? C'era scritto Brasile, esatto, e quindi si sono sentiti ed è finita 1-1 la partita. Quindi tu immagini la Corea del Nord che ha pareggiato 1-1 con la squadra di Serie C. Stavo provando a rifare un altro autogol, cioè non so se vabbè. Pareggiare 1-1 con una squadra di Serie C brasiliana dalla parte della Corea del Nord non è manco un risultato. Non è manco male, dici, c'è ragione. Poi sì. Dipende come gli hanno detto che dovevano pareggiare. E anche questo. Cioè, diciamo che secondo me nel copione non se la so sentita di vincere la Corea del Nord. Ci si sembrava un po' troppo, no? Cioè, nel senso, Brasile, Corea del Nord, poco credibile. E allora hanno optato per il pareggio. Eh beh, sì. Comunque dai, abbiamo ancora... L'Italia è spaventata. Abbiamo ancora diversi minuti per... Insomma, Cristo Nante è lui che... No, perché sto vizio di far minchiate e complicarci la vita sembra proprio il, come dire, il fil rouge delle nostre partite. Fil rouge. Attenzione, sono termini importanti questi. Adesso il Belgio gioca il jolly. Seguendo il, diciamo, una delle tante possibilità, possibili strategie di Spalletti, adesso gli spagnoli si sentono sicuri di loro stessi. Mm-hmm. E potrebbero beccare due gol uno dietro l'altro. Certo. Sì, tecnicamente. Oppure se fosse la Kings League, adesso Spalletti gioca la carta double, così se l'Italia segna vale doppio. E io giocherei la carta sciabola. Esci la sciabola e fai scappare tutti, esatto. E segni, da quel punto penso che funzioni meglio. Allora, dato che l'altra settimana abbiamo messo la canzone che ha citato prima Sbano, che era, manco mi ricordo, La dura legge del gol, adesso ne dobbiamo mettere un'altra che è altrettanto famosa, che avete sentito migliaia di volte, Drigged. Nino non aver paura. No, quella è troppo acculturata, quella la mettiamo con la Croazia. Okay. Oh. Niente, stava per... Vedi, lo spagnolo si è fomentato. Ma non è spagnolo, è nero, dai ragazzi, non è spagnolo. Vabbè, basta con sta cosa, no? No, è bellissima, bellissima sta cosa. Questa canzone ci fa ricordare che noi abbiamo avuto generazione dei calciatori con i controcoglioni. Ma non adesso. E grandi nazionali che hanno fatto la storia del calcio. E adesso con... entra le Teghi, mi pare tutto giusto. Appunto. E ovviamente adesso, e te guardi. E mi ricordo una volta una partita, non mi ricordo che partita era, quando Inzaghi era ancora sulla panchina da Lazio. E la Lazio stava a perdere. A un certo punto Inzaghi si gira verso la panchina. E c'è avuto tipo il vuoto dentro, no? Tipo. Che poi ricordiamo la panchina della Lazio lunga, però come di pare la fermata dell'autobus. Sì, no, ma quello specifico raggente veramente era una situazione abbastanza. Comunque, drammatica. Tornando al brano, no? Allora, questa è una versione live, non l'avevo mai sentita. Manco io. Però, per tutto l'abbrivio, per tutta la parte iniziale, prima che Ligabue iniziasse a cantare e la riconoscessi, avevo il dubbio, no? Ma. Che canzone è? No, mi pareva San Marcanda, De Vecchioni. Addirittura? Sì. Beh, diciamo che è un intro che non ho mai sentito manco io. Questo tipo di... Infatti, secondo me all'inizio non si capisce che canzone è. No, infatti. Questo potrebbe anche essere a discapito della canzone, che evidentemente non c'ha un... No, beh, gli ha dato un... No, è completamente diversa da quella in studio. Quindi, attenzione, attenzione, ci fanno... Ecco il secondo, guarda, guarda. Ah, no, vabbè. Okay, Fumello ha preso la palla. Fumello è servito a qualcosa. Guarda. Gualdi, secondo te come finisce? Beh, secondo me finisce a schifo. Però no, c'è sempre Cristonante. Io aspetto Cristonante. Secondo me finisce, cioè, e questa tu, è la mia unica consolazione. Esatto. Cioè, tu comunque la tua speranza è che Cristonante facci qualcosa. Ma facci prima qualcosa. Ne ha battuto uno, ma non è stato abbastanza. Si è preso un bel cartellino giallo, anzi. Se non sbaglio, Cristonante è australiano, se non sbaglio, potrei dire una stupidaggine, no, insomma. C'ha qualcosa del canguro in effetti. Comunque, vabbè, attenzione, attenzione, contropiede, attenzione sulla fascia. E c'è due, ma che... Se poi c'era anche qualcuno. Esatto, e perché noi siamo troppo impegnati con la tattica difensiva. Esatto. Poi c'hanno paura che se distraggono. Infatti si confondono ogni tanto. Cioè, no, che poi non me va di tornare indietro, capito? È faticoso. Fatica. Guarda, il campo sono 100 e passa metri. Sì, sì. Fatto te 100 metri andriga. Fatto te passa 100 metri avanti andriga. Con la prossima settimana mettiamo Nino, non aver paura. Mino e Raiola, te prego, no, perché sennò. Cioè, si confonde. Secondo me l'Italia, se prestasse un pochino. Allora. Una cosa la posso dire da uno che ci capisce relativamente, al di là dello strapotere tecnico che sicuramente c'è, secondo me qui è un problema pure fisico, perché tu comunque se sei in difficoltà dal punto di vista tecnico e invece te la giochi col pressing, con la forza fisica, è proprio che noi non... Secondo me finito il campionato i giocatori italiani sono spompati. Ma sì, ma perché poi non c'hanno voglia... Cioè, vabbè. Magari ce l'hanno pure la voglia, perché poi magari, cioè, nel senso, comunque stai lì, cioè, tieni, dai, non è che vai a giocare per giocare, insomma, no? Ma io penso che a nessuno gli piace giocare e perde, insomma, penso, poi. Come dice la canzone di Mimì che metto sempre, Mimì Aiuara, giochi per giocare senza vincere niente, Mimì, e questo è uguale. Mimì, tra l'altro nessuno ha mai fatto un lungometraggio su Mimì, io l'avrei visto. Mimì metallurgico ferito nell'onore, esatto. Cosa? Mimì metallurgico ferito nell'onore. Che senso metallurgico? Mimì metallurgico finisce per Müller. Cioè, no, scusi, stavo a pensare a Mimì Aiuara. Mimì per Domenico, Mimì per Mimì. Vabbè, ho capito. Comunque, Per Müller ha fatto film belli strani, no? Vabbè, film che oggi non potrebbero essere più fatti. No, perché... no, fatti sì. No, però... ma sì, bottana industriale, no. Falla bottana vedere. Schiaffo. No, sodomizzami, no. In che senso? No, oggi non te li farebbero fare. I film te li potrebbero anche far fare. Il problema è la distribuzione. Che non... Cioè, oggi un regista non lo farebbe mai una cosa del genere, insomma. Cioè, tu dici che Disney non potrebbe fare il remake di Travolti dal Destino? Guarda, Disney, io devo dire la verità, ha fatto cose anche peggiori, cioè, nel senso che Disney tu la vedi sempre, oh, Pucci Pucci, Disney, ma Disney... Aspetta, un tentativo di contropiede. Mazza le botte che se danno, però. Boom! Ma pure questo è il cartellino, adesso però. Adesso entra The Undertaker. Scusa, no, ma... Adesso entra The Undertaker. Esatto. Perché ci manca soltanto quello. E vabbè, mi ha ricordato una cosa bruttissima. C'era una mia collega di lavoro che era soprannominata di Undertaker. Ah, che bello. Fai tu. Non voglio aggiungere dettagli. Ok, perché era grande, grossa e con la barba. Grande, grossa e si truccava con lo stucco come di Undertaker, uguale. Okay. Ma però quello, la barba a me non c'ha. Tipo quella su YouTube, perché sono cazzi miei. Non mi sono mai azzardato a domandarmelo. Ok. A domandarmelo. Attenzione, perché momento, questo, attenzione, me, momento punizione dal sai limite. Che dai calci piazzati noi siamo letali. Guarda, ma dalla guarda certo. Il calcio piazzato, beh, comunque dai, su. Oh mamma mia. No, vabbè, una mestizia, raga, non abbiamo fatto un tiro in porta. Io non ve lo vorrei dire, stiamo al 70esimo. Non abbiamo fatto un tiro. Passiamo in porta. Al portiere, perché no? Esatto. Ma il portiere fa oggi nel calcio moderno con la costruzione a basso, il portiere fa parte del gioco. Allora, intanto, visto che è stato citato, ci dice il nostro mister Ziro che Cristante è canadese. È nato da padre canadese di origine italiana e madre italiana a San Vito al Tagliamento ed è cresciuto a San Giovanni di Cersara della Delizia, che non so dove sia. Vabbè, comunque mi ricordavo che era. I genitori l'hanno chiamato Brian in onore di Brian Ferri. Pensavo Brian Boitano. Io pensavo Brian de Nazareth. Sì. Comunque Marco Pizzellonio. Marcus Dickus. Piccus Dickus. Comunque mi sono dimenticato. È una cosa bellissima. Vabbè, l'età, Marco, non ci devi fare caso. I 50 anni sono così. Sono terribili. Non mi ricordo più quando avevo 49 anni. È una cosa incredibile. Bah, dai, questo ci fanno il secondo. Vai, eccolo. Almeno ci mettiamo l'anima in pa. Madonna mia. Ha tentato il gol alla Del Piero. Infatti, c'ha ragione, non è spagnolo. No, con quella faccia non può essere spagnolo. No, è Balotelli a 20 anni. Quindi il Veneto. Esatto. Pota! È proprio bergamasco. È proprio bresciano. Pota! Boom! Mamma mia, poteva essere un golasso questo, eh? Eh sì, però comunque continuano a non aver fatto un gol loro, insomma. Esatto. Diciamo, insomma, che i pali, le traverse e gli incroci fanno parte della porta, insomma. Non so. Sta entrando Alex B, che sembra quasi un nome e da chat. Che Abel Ferrara sta entrando. Che poteva quasi essere Alex G, però vabbè. Sono contenti i spagnoli, di che... Tu saresti contento al posto loro? Sì. Beh, dai. Considerando che gli hanno quasi eliminato la corrida, quindi... Esatto. Cioè... E che il governo ha perso le elezioni per questo. Infatti. Esatto. Tutto sommato. Poro Sanchez. Ferran, che ovviamente è veneto anche lui. Beh, ricordiamoci che in ogni essere umano del mondo c'è almeno una parte di DNA, no, abruzzese. E calabrese. Quindi la costruzione al basso, l'Italia riparte, però arriva verso la propria. Lo so, ma è quella la differenza. Cioè, lo strapotere anche fisico, non solo tecnico. Cioè, nel senso, non riesci a muoverti perché questi corrono su tutte le palle, fanno pressing. Raga, cioè, questo è una cosa sulla quale bisogna ragionare. Perché succede questo? E poi io. Dovremmo aprire delle parentesi polemiche. Questa la dedichiamo. Giochi per giocare senza vincere niente, non è questa. Vabbè, io ho trovato questa. La vittoria. Questa la dedichiamo a Walter Sbano e a tutti coloro che. Team Giorgia, Lepore. Nella vita ci hanno provato a giocare a pallavolo. Sì, io soprattutto, ho proprio le caratteristiche. Ma poi che è successo? Poi. Troppe gocce di ciclone. Poi si cresce, capisci? Sogni, dolci sogni. Sul tuo banco di scuola fai mille batticuori, al tuo diario racconterai. Romantica Mimi, fantastica Mimi, la più carina della classe. Tutta la squadra c'è di pallavolo che conta su. Io questa la conosco, però sta canzone. No, perché quella dell'altra serie di Mimì. Ci sono due Mimì. Poi non so se è stata una. Mimì e Coco. È stata una scelta italiana chiamarle tutte e due Mimì. Mimì e Coco e Cacamo Cazzo. Mimì e Coco e Cacamo Cazzo. Attenzione, Italia in attacco. No, dicevo prima, mentre ascoltavamo Mimì, vi siete persi questa scena emblematica in cui il quarto uomo diceva a Spalletti: ammazza che già cade merda. Spalletti, sì, è vero. Ma che è qua la petacca di dietro? Vabbè, seguiamo il calcio di punizione. Bravo, bravo, bravo. Per on fire proprio. Mamma mia. Niente, raga, non... Ma noi... è una brutta generazione. No, oggettivamente, ma noi dei tiratori, che cazzo c'avemo? Non c'ho idea. Pirlo. In Spagna c'è un Pirlo. In Spagna c'è sicuramente un tiratore che è quello con i capelli lunghi. No, quello più che tiratore. Quello più che tiratore è un venditore. Esatto. Ma tira anche. Questa è la maglia desnuda. Chi è questa? La maglia vestita. Che... meglio che vestita che desnuda. Sì, sì. Col fiocco rosso su, mini ragazza. Sapella e detta. Quanta, però pur essendo l'altra, l'altra serie, però la conosci, cioè tu conosci, le conosci tutte, insomma. Sì. Non si perde più. Quanta pochezza di gioco. È un'emozione, Mimì, che nella gola ti salirà. Non facciamo allusioni qui. Abbiamo ancora 12-13 minuti per soffrire. Per soffrire o per pareggiare o per prendere un altro. No, comunque di più, siamo al 75esimo, 15 più il recupero. La vittoria. Ma che partite, Mimì, sotto la rete, Mimì, batti ribatti chi vincerà. Dove li fanno i mondiali? Sparsi per mezza Europa li fanno. Ma non mi ricordo, cara, tipo che però perché. Ma quali mondiali, scusa? I prossimi. No, qual è? Sono i prossimi europei che ci sono partiti anche in Italia o al sì, mondiale? Sì. Il prossimo europeo è quello sparso. Che tra l'altro dovrebbe essere il 50esimo anniversario di Sor Cazzo. Conoscete Sor Cazzo? Sì, sì, è il papà di Fracazzo. Esatto. Il Fracazzo da Velletri. Ma invece i prossimi mondiali non si sa. In Arabia Saudita. Ci stiamo documentando. Ci stiamo documentando. In Messico. Dove si svolgeranno i prossimi mondiali di calcio? Ad Albuquerque? Cosa, mentre... in Russia, forse in Russia. Prova, potrebbe darsi. Israele. Israele, esatto. Mi dispiace, ma la prossima Coppa del Mondo FIFA non si terrà ad Albuquerque. La prossima edizione, la Coppa del Mondo FIFA 2026, si svolgerà in tre nazioni del Nord America: Canada, Messico e Stati Uniti. Vero, vero, sì, di nuovo in America. Albuquerque si trova negli Stati Uniti, ma non è una delle città selezionate per ospitare le partite. Allora niente. Le città che ospiteranno le partite del torneo sono: Canada, Edmonton, Montreal. Basta. Montreal. No, comunque, raga, Montreal. Mamma mia. Mi sono perso il pensiero. C'è gente morta. Comunque, raga. No, comunque, esatto, comunque, raga, dobbiamo dire. No, cioè, pare ieri che Baggio ha sbagliato il rigore e restiamo in America. Che cavolo. Invece era il 94, quindi sono passati due anni. 30 anni. Ma che 30? Dai, sì, due. Tre anni forse. Perché certo, no. tre anni, sì, sì, sì. Trent'anni, Trent'anni, come se fosse. You rock it! Salam! Ta ta ta ta ta ta. Io ragazzi. Ero ragazzino quando vedevo sta roba e dicevo: ho paura. Non ti ha fatto perdere la voglia di giocare a pallone. Intanto no, no, perché non mi allenavo. Tanto lo spagnolo esce. For this is a good year. One football and song. Everyone get ready. Now he's going to see the best goals in football. He's in Italy. Altri tempi. Pure la canzone ce lo ricorda. Quando era deciso far aprire passare, ad un gatto. Quando era deciso far passare i camion sulle gambe della gente. Esatto. Esattamente quello, cioè la nazionale del Brasile che si allenava sdraiati tutti in fila per terra con i camion che gli camminavano le ruote sulle gambe e diventavano sempre più forti perché serviva per rafforzare i muscoli delle cosce. Esatto. I muscoli delle cosce sono indispensabili al gioco del calcio. E allora dovevano avere queste cosce gigantesche. Ragazzi, Super Boys era un cartoneato molto vecchio, un anime veramente vecchio, degli anni 60, penso, degli anni 70. Infatti, fine anni 60. Si vede dal disegno, insomma, che era abbastanza bruttino. E però era terribile, era terribile. Poi la storia è... Credo più o meno età di Mimì, perché lo stile del disegno era proprio quello. Sì, sì, era quelli proprio, gli anime proprio quelli ancora un po' grezzi, un po' rozzi. Tra l'altro lui, Shingo Tamai, Scimmia Tamai, Shingo Tamai, era un pezzo di merda, cioè, nel senso, era il bullo da scuola, che alla fine lo costringono praticamente a giocare alla scuola, alla squadra di calcio della scuola, quando in Giappone tutti i ragazzi dicevano: no, ma io il calcio, cos'è il calcio? È proprio... Negli anni 60 il calcio in Giappone non sapevano manco che cos'era. Sto a parlare. Scusa, no, no, sì, perché tutti volevano fare kendo, tutti volevano fare judo. Volevano fare judo o boy judo. Sappiamo che per te è importanza. E quindi c'era sta cosa del calcio, che invece lui li conosceva tutti i giocatori del calcio. Sì. E c'era l'allenatore, che pure in Giappone nessuno conosceva, che era un ex giocatore della nazionale giapponese famosissimo. Cioè, lui era famoso. Miura. Del calcio nessuno sapeva niente, ma lui era famoso, insomma. E quindi sto Shingo Tamai, che era un pezzo di merda, era una sorta di Pierino in campagna, insomma. Faceva dispetti a tutti. Pierino spacca i femori, era. Esatto. Ed era un po' un pezzo di merda, insomma. La canzone era figa, vabbè, ma d'altronde. Sai che dovrebbero provare? Guarda che sta canzone è figa davvero, cioè, dovrebbero provare a fare questa cosa di allenamento con i con i cani. E poi farli giocare. Gol! No. Rigore? No, dai. Non diciamo cazzate, mi raccomando. Attenzione, controllo a check al VAR. No, vabbè, il fallo l'ha fatto lo spagnolo. Ma che voglio, c'è Cavara, rigore dall'altra parte. Esatto. Porta la palla di là. Calcio tank. No, è posizione in area. No, calcio tank, attenzione. Sì, vabbè, ho capito, l'hai battuta da centrocampo, mortacci tua. Se segnano sarebbe... Se segnano sarebbe da invalidare, Ma non segnano perché... Cioè, abbiamo capito che comunque questi spagnoli non segnano. No, per principio devono far segno a noi. E uccidono poi altri giocatori. Quella è la cosa, insomma, lo scopo è quello di uccidere le persone. Torniamo a un calcio maschio. Basta queste signorine. Queste signorinelle qui, questi smidollati. È entrato Raspadori, attenzione. Come, non era Giancampo Raspadori? Quella, no. Rasponi forse. Ad umano, Sponi. E vabbè, ragazzi. Come insomma, si fa a perdere palla così? Che si fa, che quando è successo? Cioè, no, guarda, questa azione mi ha fatto talmente schifo che la facciamo di nuovo da capo. Ma sai che c'è, cioè, secondo me questi stanno nella mentalità, raga, ma qua se andiamo avanti le vacanze durano troppo poco, famo così. No, dai. Non durano poco perché recuperano dopo. Cioè, si possono, fa ancora più vacanze. Si aggregano al ritiro delle squadre due settimane dopo. Ho capito, ma tra l'altro, secondo me, adesso vi spiego la nuova tattica dell'Italia. Noi perdiamo questa partita, così loro vanno avanti, si sentono più forti. Noi vinciamo con la Croazia, arriviamo piano piano, andiamo avanti pure noi fino a che li inculiamo in finale. Ma noi puntiamo come sempre a essere ripescati alle eliminatorie per poi arrivare in finale. Noi andiamo sempre così. Beh, vabbè, se vinci la Croazia arrivi secondo. Sì, sì, senso, no. Comunque ti qualifichi pulito. Diciamo che la Croazia non mi è sembrato dopo l'1-1. No, anzi, infatti potremmo finire il girone anche a 6 punti. Va. Anzi, 2-2 con l'Albania. 2-2 con l'Albania. Sì, sì. Tu quello l'hanno segnati, però. Cioè. Voglio dire. Beh, ho capito. Pure noi abbiamo fatti 2 con l'Albania, però l'hanno presi pure 2. Noi ne abbiamo preso uno solo. Eh sì. E secondo me manco valeva, perché ancora non avevamo capito che stavamo giocando. Esatto. Sì, no, però vedi, non c'è. Intanto ti confermo che l'Inghilterra ha ufficialmente pareggiato 1-1 con la Danimarca. Attenzione. Ok, quindi hanno convalidato il roster. No, però non lo so, cioè proprio non esistiamo, no, capito? No, dal centrocampo in poi non esistiamo. Tre volte di più, secondo me, dopo antidoping per tutti, Sì. Antidoping. Per gli italiani. Esatto, alla fine quelli... Che cazzo vi siete fatti? Che vi siete presi che non correte? State fermi come i tuserci. Ma infatti la caponata è doping? Non lo so. La cafonata sicuramente. La cafonata sì, ma la caponata? Quanto manca alla fine di questo strazio? C'è sta agonia, una decina di minuti. Se dici minuti che sembreranno un'ora. Vabbè, vado a cercare altre canzoni. Se no, ma... no, ma continuiamo, perché vedi, c'è gente che fa che India. Tanto Mr. Zero sta dormendo ormai, sono sicuro. Si è abbioccato Mr. Zero. Come mezza nazionale italiana, dopo tutto. Ma sì, ma come mezza nazione, non mezza nazionale. Però, vabbè. Attenzione, eh. Attenzione, perché secondo me, io dico, secondo me... fino a che c'è tempo c'è speranza, soprattutto finché c'è Cristo Nante in campo. Eh beh, è entrato dopo, non è che lo rileva, cioè oramai non lo leva più, facile, comunque meno questi spagnoli, diciamo che il loro livello di menaggine è perché sono delle fighette di italiani che cadono sempre appena di sfiora. Allora guardi, facci la telecronaca fighette di quello che sta succedendo in questo momento. Succedendo che gli italiani, come al solito, la telecronaca, devi fare la telecronaca in questo momento. Il giocatore A sta cercando di avanzare dalla difesa, ma tanto poi tornerà indietro, invece passa in avanti sull'ala sinistra. Castolo Barota, questo è Barota, è fallo di mano. Sì, no, spalla. Gli ha fatto il cenno, ma che spalla, ha fatto il cenno, dai, l'ombrella gestro, secondo me fa. Ping. No, questo è poi fallo di mano. Questo è, dai, questo è braccio proprio, dai, arbitro cornuto comunque. Boom, niente. Proprio manco lo sforzo di provare a girasse. Attenzione che il calcio d'angolo sarà fatale. Che è successo? Niente. C'è Cristo Nante. Attenzione, lo spagnolo voleva provocare. Cristo Nante, Cristo Nante. Io questo, ho molta fiducia in Cristo Nante. Questa è una delle classificazioni dove Pellegrini segna di testa. Attenzione, calcio d'angolo per l'Italia. Si batte dalla sinistra verso il centro dell'area. L'arbitro ha qualcosa da dire a tutti quanti i giocatori che nel frattempo stanno litigando, perché gli spagnoli, giustamente, dal loro punto di vista, la buttano in caciara adesso, no? Perché giustamente non perde tempo, e lo farei anch'io, devo dire la verità. Mi sta un po' sui coglioni questo tipo di cosa, ma devo dire che lo farei anch'io. Tu, Gualdi, lo faresti? Io avrei già fatto dal primo tempo. Però vedo che l'arbitro è abbastanza risoluto da dire: ma hai rotto il cazzo. Adesso tu mi hai rotto il cazzo. Bastoni, ma che è bastoni? Chi è sta gente? Bastoni è quello là, Manganelli, bastoni. Lo hanno preso soltanto perché richiamava molto il fascismo. Esatto, chiamando per quello. Che poi sono brutti i numeri dell'Italia. Raga, ma cioè noi oggi, cioè noi in questo mondiale siamo venuti proprio con... Ma lo batteranno mai st'angolo? Con kit tecnico. Mamma mia, tutto sto casino e poi manco l'abbiamo saputo. Cioè, vabbè, sì. Ma era sì. Rigore comunque, era rigore. Ma non va. C'è Calvaro. Cioè, non ha toccata nessuno. Cioè, no, battuto malino. Oh, un po' di pressing. Però alla fine della partita. Sì, sì. Ma... Oh, quando sono più stanchi. Esatto, noi l'abbiamo preso per sfiancamento. Ricordiamo la famosa tecnica. La famosa tecnica di Rocky Balboa. Giustamente. C'è un momento in cui ti puoi distrarre. Insomma. Poi, come ha detto ChatGPT, la difesa della Spagna può essere un punto debole. Invece l'attacco italiano. Infatti abbiamo dovuto segnarci da soli, perché sennò. Infatti l'attacco italiano è quello da tenere in considerazione, insomma, perché... Attenzione, dai, un tiro un po', un cazzo. Sì, no. Anche per una questione di dignità, insomma. Sì, sì, un tiro un po', sta fa. Ammazza. Però quante ne abbiamo prese, però gli abbiamo dato. Ci ha detto solo quante me ne hanno date, grande. Ma ha detto solo sfortuna. Grande come si è girato qua. Attenzione, sì, attenzione, capito. Attenzione. No, sì. Cioè, ma che è sta mischia furibonda, dai. Vabbè, mo stanno tutti lì. Qui loro, stanno no? Un po' al parroco qui, poverino. Ma che? Ma cosa fate? Spagna parroco. Spagna amica delle guardie qua proprio. Spagna amica delle guardie. Le Furie Rosse stanno un po' rintanate, perché secondo me un po' stanchi sono, dai. Beh, voglio dire, ti ripeto. Ne avrebbero anche ben donde, tutto sommato. Beh, loro hanno corso, loro. Noi, come dire. Corso è il cane. Perché, sì. Il cane corso. Ma siamo proprio a livello di regà, ma chi ce lo fa a fare? Cioè, ne dovevamo giocare ancora un'altra. Che palle, io avevo rinotato con mia moglie. Manca stoppare la palla. No, ma proprio non... Dai. No, ma poi Spalletti se la prenderà con i giornalisti come l'altra volta. E certo, perché giocano loro. Poi per carità, giornalisti... Se la prende con i dei giornalisti. I giornalisti, esatto, dicono minchiate. Ma d'altra parte, se tu non gli dai niente da raccontare... Cioè, ma i giornalisti ti fanno le domande, poi tu non è che... Adesso c'è sta cosa degli allenatori che gli fai le domande e vanno in puzza, cioè rispondi, se no di un'altra cosa, cazzo, cioè. Sì, poi insomma, quando sei il commissario tecnico della nazionale hai anche una responsabilità che è un po' particolare, quindi meno poi... male, posso dire una cosa, meno male c'era birra, meno male c'era birra, sì, esatto, questo ci ha aiutato a passare una serata in compagnia. La prossima volta diciamo portiamo pure il barbecue e due salsiccette, così mette... Ma infatti andiamo direttamente a Gatta, no, a Gatta Cieca, a Fratini a fare un barbecue, non venimo proprio, cioè, tanto... no vabbè, ci piace a noi, a noi c'è giusto il gusto di fare la radio, mette, mette due canzoni, ma sì, sì, na na na na na na na na na. Boh, quello è cascato dopo da solo, eh. Fammi fare la scena, no, tre minuti, fammi, no, fare la scena, dai, tre, no, minuti, dai, no, questa è patetica sta, fammi, cosa, fammi fare la scena tre minuti, manco, guarda, manco Inzaghi, no, questa è patetica sta cosa, perché devo dire la verità, proprio ha fatto tutto, cioè, beh, oddio, una spintarella gliela anche ho capito, data, ma no, che oddio, ah no, è que- ah no, ah no, no, no, no, se va bene, ci ha impiccato sul pallone, sì, questo, questo qua alla fine, la caviglia, sì, sì, me la, sì, devono, sì, amputare. Non ci sono gli Oscar per queste cose? Ma c'erano delle, dei premi, cioè, a parte mai dire gol che li prendeva per il culo, però secondo me qualche cosa satirica c'era. Tanto c'è una bandiera scozzese, così la babbo. Ci sta sempre bene. Esatto. La povera Scozia, si è che qualificata. In questo caso non è il caso. No, la Scozia sì, si è qualificata, però ha preso gli schiaffi 5-1 da Germania. Subito, sì, la prima partita, la partita inaugurale proprio. Poi oggi mi sa che ha pareggiato, quindi in teoria dall'ultima l'ultima partita ancora c'è qualche speranza. Boh. Sperano di non finire il Barbon. No, no, no, il Barbon, ma gli scozzesi no. Il whisky, whisky di Malta, sì, giusto. Lo scozzese è capace di sgozzate dei tre quarti da palazzina tua, insomma. Vediamo un po', 4 minuti di recupero. Attenzione, sono 4 minuti. C'è un altro cambio? No, non so, erano solo i 4 minuti. L'ha appena detto, sbaglio. Mamma mia, la faccia di Spalletti quando rosica. Sì, sì, è proprio un cazzato nero. E vabbè, ma d'altronde è un uomo che si sa, insomma, la prende sempre bene. Sì, sì, è uno che proprio sa incassare la sconfitta. Spalletti, una cosa. Mentre lì cammina, gli dice: ma forse Totti me lo dovevo tenere. La faccia era proprio quella. Sì, ciao, Core. Comunque, cioè, oggettivamente. Forse non hanno manco voluto infierire. Diciamoci, no, questo, che insomma. C'entra la, secondo me la, no. Non sono d'accordo, sì, eccolo, eccolo, eccolo. Perché voglio dire, la cosa di fa un gol de tuo, quantomeno, non voglio infierire, no, capito, però una partita di questo ricalibro contro l'Italia. Beh, però sempre un gol lo voglio fare. Tu hai vinto 1-0 su autogol, cioè gli dà via per culo per tutto l'anno, cioè tu immagini un derby finito così, sarebbe la fine. Ma non è un derby. Beh, un po' un derby, un po' un derby. Ah, ma c'hai lo scudi? Secondo me Italia-Spagna è agonisticamente più sentita di Italia-Francia. Poi, beh, il campanilismo è più verso Italia-Francia, perché sì, proprio... però sì, sì, sportivamente, sportivamente però sì, è più Italia-Spagna. Che poi ogni tanto, cioè, boh, vabbè, c'hanno sta generazione, sono una decina d'anni che sono forti, però insomma, vedi, loro calcisticamente hanno tutta sta mega tradizione. Eccolo, mamma mia, zitto, zitto, zitto. Comunque, raga, comunque Buffon, secondo me, Donnarumma, sì, Buffon, tutto, però il lavoro solo sa, sì, fa. Sì, sì, no, lui c'ha una dote nella vita, è stato fortunato per quello. Cioè, il signore gli ha dato questo, il signore ha genetica, quello che è, insomma, il signore non me lo permettete. Di una cosa così. Vabbè, tecnicamente dovrebbe essere il motivo per cui stanno lì 22 cristiani, no, uno solo, però nel senso, beh, sì, però il portiere, cioè il portiere, vabbè, sì. No, Donnarumma sicuramente sta un livello sopra, sì, sì, sì, tantissimi altri, è il Buffon della sua generazione, è abbastanza, certo, abbastanza, devo dire che alla fine passerà una storia come tra i, insomma, tra i, orca troia, si passava, ma lui io credo sia comunque, ma vabbè, perché al Paris Saint Germain ha anche delle vicissitudini, non è che gioca tantissimo, però secondo me se avesse anteposto la carriera, la prospettiva di carriera all'avidità monetaria, lo so, magari starebbe ancora al Milan e sarebbe considerato il miglior portiere al mondo adesso. Sì, buonanotte, questi iniziano i crampi. Dai, avete vinto, lui che fa tutta sta sceneggiata, un po' di dignità, un po' di no, dignità. Vabbè, mamma mia, che gol poteva essere questo? E poi guarda come gli ha preso. Infatti. Certo, l'ha rimessa al centro dell'area come in PES. Però intanto ha presa. Ma quante sostituzioni sono? 15? No, sono 5 in totale. 5. 3 slot per 5 sostituzioni. Sì, dal Covid in poi hanno messo 5 sostituzioni e oggettivamente non l'hanno più levata sta cosa, ma io sono anche d'accordo perché il numero di partite che si gioca oggi rispetto a quando c'erano solo 2 sostituzioni è abissale, insomma. Sì, sì, ma tanto quando poi le sostituzioni le fai tutte al 93esimo, lasciano il tempo che trovano. Vabbè, sì, ma questo si faceva pure quando c'erano solo 2, che c'era sempre il sostituto, quello che mettevi ai tempi di recupero perché serviva per perdere tempo, insomma. Che poi non si è mai vabbè, ma perché sono appunto sono partite in cui vale qualunque risultato, ma quando stai giocando la partita della disperazione e dentro fuori o comunque una partita che non prevede pareggio e sbaglia alla sostituzione all'ultimo minuto, te giochi il rigorista. Sì, esatto, sì, sì, certo. È vero pure che secondo me mo se non c'era stato quell'autogol, poi alla fine l'Italia secondo me ha fatto quello che voleva fare, cioè, sì, fini in pari. Fini pari 0-0 e vabbè, poi ti ha detto male. Perché poi... Ma adesso pareggiamo, eccolo, guarda. Eccolo? No, manco per idea. Manco un cross. Manco un cazzo di cross alto. Cioè, esatto. Mettila una cazzo di palla in aria. Cioè la forza fisica. No. Per far... Manco lo sforzo di far cross, niente. Ma secondo me non è un problema di sforzo, è un problema di mancanza di capacità. Cioè, ma lì mancava proprio la tecnica. Attenzione, ultimo arrembaggio. Cross al centro. Vai, no! Vabbè, è il meglio che abbiamo fatto fino a mo. Questo è l'ultimo calcio d'angolo. L'ultimo calcio è anche un'ammonizione così perché l'ho guardato male. Ecco. No, tu ti ammonisco perché mi stai sul cazzo. Sul cazzo con quella barba del mezzo. Esatto. Dai, questo sarà veramente l'ultima azione. Ora sarà ovviamente un calcio d'angolo tirato a merda perché a merda. Vediamo un po'. Allora io vado, così ci... Grazie a te, non fa un culo. C'è anche Donnarumma? Sì, beh, io lo farei, è giusto. Diventa il Rampulla dei nostri tempi. È anche alto, quindi non si sa mai. Sì. Beh, ricordiamo se è anche provvedente. Adesso lo batte il guardaline. Esatto, si è messo proprio là. Come per dire. No, perché lui fino a che non dà il via all'arbitro... Che continua a litigare con gli spagnoli, ma buttali fuori, scusa, se c'hai sempre da litigare, cioè stai a far perdere tempo pure tu. Ecco, si leva il guardaline, ta ta ta, pam! Che poi io so sempre dell'idea, no? Che è inutile. Butta là dentro! No, te la sei fatta frutte. Ma perché sei stupido? Mamma mia. Finiamola così con dignità. Vabbè, in Caciara non si poteva mai sapere. Ricordate sempre che in Caciara non si sa mai. È finita. Basta. Finita? Okay. Sì, sì. Finita. Vabbè, diciamo che insomma, ecco, se non fosse che ci siamo segnati da soli, poteva essere un 0-0. Allora, possiamo tranquillamente dire che comunque l'Italia ha segnato più gol della Spagna. Quindi c'è sta poco da parlare. In un modo o nell'altro, cioè guardandola secondo punti di vista differenti da quelli che dovrebbero essere, insomma, il regolamento del gioco è come dice Gualdi. Bene ragazzi, ancora un po' speranza c'è e noi ci vediamo lunedì prossimo naturalmente per la partita con la Croazia, sperando di vincere, di passare il turno e vedere fino a che andiamo avanti. Se poi non dovessimo vincere, non dovessimo andare avanti o fermarci agli ottavi di finale, noi non faremo le live, faremo qualcos'altro nella vita, tipo andare appunto a sbraciarsi un po' di salsicce da qualche parte, tranne per Marco Gualdi che ovviamente gli sbraceremo delle la soia, verdure. Satan. Allora, vabbè, salutiamo anche Mr. Zero che ci ha fatto compagnia uno e trino e come aveva pronosticato a schifio ha detto che sarebbe finita, quindi ha portato sfiga. Chi può dirlo, come un Salvini qualunque, va. Vabbè dai ragazzi, io ringrazio comunque... e saluto Marco Gualdi. Vi saluto comunque. Cristonante non ha avuto abbastanza tempo, doveva avere altri 40-45 minuti, avrebbe sentito. Il terzo tempo gli danno. Ringrazio e saluto Walter Sbano. Buonanotte. Ci vediamo la prossima volta, quindi lunedì prossimo, e intanto ci ascoltiamo con calma la seconda versione di Mister Vero, la canzone di Marco Gualdi.